è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Scoppiere in bomba, ah, si tratta di me, dai reggiti forte che spacco le porte. Hai capito, Parenzo? Pare che bombardiamo, però non abbiamo il coraggio di dire che bombardiamo sul serio. No, cosa è? Tutta italiana, incredibile. Cioè, incredibile. Abbiamo deciso di colpire obiettivi militari con dei razzi, però non abbiamo il coraggio di dire che bombardiamo. Dunque, senti, per esempio, la Russia è intervenuto nel pomeriggio a Sky TG24. La Russia sarebbe il ministro della difesa. Il ministro della difesa sarebbe. Dice: non bisogna usare il termine bombardare. No. Scusami, tu che sei un esperto di queste cose, anzi, non lo sei, però te lo chiedo lo stesso. Sì. Tu che sei una persona di buon senso, secondo te, quando un aereo o una nave sgancia una bomba o tira un razzo, che a cosa, casa mia c'è delle regole, c'è una cosa, qual è il verbo che utilizzeresti? Bombardare. Bombardare, cioè, la Russia. Ministro, si bombarda dunque, la decisione è presa, con che animo? Beh, noi non usiamo questo termine perché lascia lo spazio ad equivoci, poi si può anche usare, ma l'idea di bombardare fa venire in mente alle persone, almeno che hanno superato la quarantina, la cinquantina, cioè, le bombe a grappolo. Ma perché per forza le bombe a grappolo? Bombardare anche una sola bomba, normale, un razzo, cioè... Equivoci, ci sono equivoci. Ma che equivoci? Un aereo che passa sopra, sgancia una bombetta, sgancia, bombardare, guerra. Ma perché non usano? Non lo so, Berlusconi, questa è ancora più sottile la cosa. Non ho bombardamenti, ma interventi specifici. Non lo so, sentiamo. Preso questa difficile decisione, difficile perché conoscete il nostro passato coloniale nei confronti della Libia, tuttavia abbiamo ritenuto che a questo punto noi dovessimo farlo. Vorrei anche però dire con chiarezza che non si tratta di bombardamenti, si tratta di interventi con dei razzi di estrema precisione su singoli obiettivi militari. Certo, non è che gli altri bombardano la popolazione civile, cioè non è che voglio francesi... trovare uno che dice no, adesso raderemo al suolo la Libia. Dov'è quel ministro della difesa che direbbe una roba simile? È chiaro. Comunque, lo stesso Berlusconi, come ricordate, il 21 di marzo proclamava: siccome la Libia è una nostra colonia, è stata una nostra colonia, i nostri aerei non hanno sparato e non spareranno. Tutto il contrario di quello che è successo. Comunque una delle cose certe è che i nostri aerei non hanno sparato e non spareranno, perché abbiamo offerto le nostre basi, era impossibile non farlo, ma abbiamo offerto i nostri aerei per il pattugliamento. Vabbè, le cose cambiano, no? Anche in politica estera, no? Le cose cambiano. Le cose cambiano anche per quello che riguarda il nucleare, caro Parenzo. Perché esplicitamente, devo dire che Berlusconi da questo punto di vista ha fatto anche chiarezza, no? Perché c'è il decreto che annullerà molto probabilmente il referendum, anche se adesso l'Italia dei Valori si appella al capo dello Stato, eccetera, eccetera. Per non perdere il referendum, perché dice Berlusconi, noi siamo comunque favorevoli al nucleare e continueremo a essere favorevoli al nucleare, Berlusconi. L'accadimento giapponese, a seguito anche dei sondaggi che noi abitualmente facciamo sull'opinione pubblica, ha spaventato ulteriormente i nostri cittadini. Se fossimo andati oggi a quel referendum, il nucleare in Italia non sarebbe stato possibile per molti anni a venire. Il governo quindi responsabilmente ha ritenuto di introdurre questa moratoria per evitare il nucleare, per far sì che si chiarisca la soluzione giapponese e per far sì che magari dopo un anno, dopo due anni, si possa ritornare ad avere un'opinione pubblica consapevole della necessità di ritornare all'energia nucleare. A proposito di Berlusconi, c'è anche un'ultima barzelletta. In realtà quella che sentirete fra poco non è stata raccontata oggi quando Berlusconi a un certo punto, in un break, in un momento di pausa del vertice italo francese, è entrato in una farmacia. Ma ogni tanto... per comprare che cosa in farmacia? Non lo so. Ogni tanto Berlusconi però si ripete, come sai. Ormai. Si ripete e ha raccontato a uno stupito commesso di questa farmacia, tale barzelletta, sentiamo. Non dico di quel tale che andò dal dentista e disse: dottore, cosa mi consiglia con questi denti gialli? Dice: una cravatta marrone starà benissimo. Vecchia anche questa. Vecchia, non è che fa ridere molto. Ma perché non si legge qualche barzelletta nuova? Ci sono tutti questi libri che escono. Se te legga qualcuna di nuova, così almeno, no? Amplia però ci sono varietà. Follie del fine settimana. Poi ti presento l'ospite che è già qui pronto. Ma non è qui con noi, perché qui in studio. No, qui con noi no. È qui con noi, nel senso, non deve essere necessariamente presente. È vero, perché è la radio. Presente nell'etere. Basta che si senta. Nell'etere. Ecco, questo. C'è Vittorio Sgarbi, che ospite in gran forma, devo dire, da Lucia Annunziata, ha detto che siccome il nostro amico Lassini è stato sequestrato per mesi dai pubblici ministeri, sì, o comunque dai magistrati che l'avevano messo in galera, poi è stato assolto, il sequestro, l'arresto di un innocente equivale al sequestro che facevano i brigatisti. No. Sì, l'ha detto. Pura follia. Sgarbi. Perché non hanno fatto nulla quelli che l'hanno messo in galera? Perché questi non pagano mai? Ora, uno che va in galera ha il diritto ad essere incazzato. Peggio è se cacciare in galera qualcuno che fare un manifesto, è molto più grave. Se lei va in... il sequestro di persona che facevano le BR è identico al sequestro che fa un magistrato che arresta un innocente. Si chiama sequestro di persona. Beh, c'è qualche piccola differenza. Paragone un po' ardito quello del professore. C'è il sequestro di persona delle Brigate Rosse e il sequestro di persona, cioè l'arresto delle persone, e secondo, sempre in teoria, speriamo sempre anche secondo canoni che riguardano la legge. Ma non dobbiamo neanche stare qui a discutere cosa, le follie del professore. Un'ultimissima cosa a cui vogliamo Giovanardi, non voglio sentirlo, perché devi mandare sull'IKEA, dici? No, sull'IKEA, no. Sull'IKEA non lo vuoi sentire sto Giovanardi sull'IKEA. Ha dato del manganellatore fascista Francesco Merlo ieri qui alla Zanzara. Ricordi la polemica sull'IKEA, qual è stata? No, come no, lo spot dell'IKEA: siamo aperti a tutte le famiglie, con due uomini fotografati di spalle che si tengono per mano, offende la Costituzione. Bellissimo, uno spot meraviglioso. Sentiamo Giovanardi. Il messaggio che loro danno è un messaggio che contrasta totalmente con la nostra Costituzione. Bisogna difendere la Costituzione laica e repubblicana. Nella nostra Costituzione laica. Bene, siamo qui 800 24 00 24. Questa è la Zanzara degli studi di Milano, dove è presente oggi David Parenzo, in collegamento non so da dove, perché non me l'hanno detto, immagino da Roma, il coordinatore nazionale di Futura Libertà. Roberto Menia, detto anche l'uomo dei colibrì. Buonasera. Buonasera, da Trieste comunque. Da Trieste, ecco, in collegamento da Trieste. Vogliamo ricordare come che lei fu il grande sponsor dell'operazione Colibrì, no? O sbaglio? Queste sono le future colibrì, amico mio. Qui. No, future colibrì è una tua battuta, Parenzo, no, non c'entra niente. Perché dici future colibrì? A me sono molto simpatici gli amici Future Libertà. La battaglia sui colibrì però mi mette proprio un'agitazione. A che punto è la situazione dei colibrì? Tanto per essere aggiornati, caro Menia. Sì, per partire, una roba attuale proprio. Sì, una roba attualissima. Pronto? La vicenda dei colibrì è una banale vicenda triestina, dai. Non è né una battaglia né nulla di... Ma sono ancora lì a Trieste questi colibrì? I colibrì per il momento sono ancora a Trieste. Oh, Parenzo, uno studioso che è simpatico, lo dovreste conoscere, cura i colibrì. Ma l'abbiamo sentito anche. Ho trovato doveroso cercare di dargli una mano. Ma l'abbiamo sentito, assolutamente. Abbiamo fatto una trasmissione molto divertente con lui, eccetera. Poi ci furono varie polemiche per l'intervento di Berlusconi e Sgarbi, eccetera. Però fu una battaglia buona. Lei, che adesso è diventato anti-berlusconiano, o comunque contro Berlusconi, no? Anti-berlusconiano, no? Fu una battaglia. No, fu una battaglia. Berlusconi si impegnò, o no? O sbaglio? Berlusconi è venuto dopo. Dopo, certo. La vicenda dei colibrì è antica. Io su questa vicenda, ripeto. Tenevo a salvaguardare un'istituzione triestina, dopodiché... Dopodiché vedremo come... Le cose come vanno. Appunto. Vabbè, vedremo. No, non è un tema di grande attualità, per carità. No, però un collegamento c'è, caro Menia, ed è questo. Perché nei giorni scorsi lei è stato pizzicato in Parlamento dai fotografi mentre giocava con l'iPad. È vero. Allora, uno dei giochi pare... A cosa giocava? Un gioco che si chiama Angry Birds. Ha sempre gli uccelli, Menia! Si occupa sempre di uccelli, dai! Non era quello, comunque. Cos'era l'altro? Come no, si era un giochino... Io ho una bambina piccola. Super Mario, cos'era? No. No, però era... Non mi ricordo... Ma come no, si ricorda benissimo, diciamo la verità. No, si... ma come no, le spiego anche come funziona, ma se ne chiede... che gioco era? Che gioco? Il folletto che vola, dai. Del... Il folletto che vola? Il folletto che vola, che gioco è? Vabbè, su. Come su? No, su. Sono cose serie. Quanti punti ha fatto? Sono d'accordo. Sono cose molto serie. Alcuni hanno riportato Angry Birds, in cui i giocatori usano una fionda per lanciare uccelli contro suini, rei di aver rubato le loro uova. Sì, con ma le ripeto se non è quello. Non è quello, non è Angry Birds. Non era quello, no. Come si vede dalle foto. Adesso non mi chiedo il nome perché non me lo ricordo. Per non se lo ricorda. Ma uno, comunque, perché gioca? Perché gioca questi diciamo con l'iPad in Parlamento? Perché ogni tanto si uno si annoia, perché è giusto rilassarsi. Si giustifichi un po'. Io le spiegherò che si era in una seduta di ostruzionismo. Lei conosce probabilmente la pratica parlamentare dell'ostruzionismo. Sì, certo che conosco. In particolare nel corso di quella mattinata consumarono, diciamo, 5 ore con interventi che venivano da tutti i deputati dell'opposizione che specificavano che non era stato riportato correttamente il pensiero da loro espresso in sede di verbale di seduta. Dunque era una cosa noiosa, diciamo. E quindi una cosa, per chi conosce le pratiche parlamentari dell'ostruzionismo, vede, e poi hanno detto delle cose mirate, ne avrebbero presi tanti altri, anzi... No, perché mica c'è solo lei, mica c'è solo lei. Ma noi ogni tanto quando invitiamo qualcuno, non per chiedergli dell'iPad e dei giochi con l'iPad, io lo chiediamo. Ma giochino con l'iPad in Parlamento non si deve fare, dopodiché... uno scopre che tra parecchie persone che si trastullavano con l'iPad o con altre cose durante lo socialismo, perché è una cosa che naturalmente avviene, come tutti quelli della stampa parlamentare o chi sa, ne beccano uno che era opportuno mettere su quella testata e su quel giornale. No, vabbè, opportuno. La macchina del fango anche per gli uccelli, qui per l'Angry Birds. Per l'iPad? No. Poi se ne è occupato anche il Corriere della Sera, non è che solo Libero se ne è occupato. Su, loro si sono concentrati su lei e su un altro deputato, Daniele Toto, perché chiaramente ognuno fa il suo gioco. Poi ha visto il Corriere, ha pubblicato anche ex ministri della Repubblica, tanti altri che erano tutti targati PDL, ma non hanno avuto l'onore della prima pagina. Io noto solo questo, dopodiché mi dice che non devo giocare. C'ha ragione, chiedo scusa. No, ma perché deve... Se lei, no, se lei invece... 5 minuti Vabbè, adesso, Menia, non è che può decidere lei gli argomenti di cui parliamo. Decidiamo noi, e poi se lei va, bene. Se lei non va, pazienza. Cioè, no, ma nel senso che, siccome è una cosa che... Io ho ascoltato una copertina che era interessante. E adesso ci arriviamo. Parlare delle cose dell'oggi. Assolutamente, ci arriviamo. Assolutamente, ci arriviamo. Adesso posso abbastare la questione. No, ma certo che tutta Italia frameva su questa storia. Se lei insiste su questa cosa dell'iPad, poi mi porta a chiederle ancora una volta se lei si è pentito e dice no, non giocherò mai più, oppure, come secondo me invece dovrebbe essere, può succedere, uno deve rivendicare il fatto che quando si annoia può giocare con l'iPad in Parlamento. Ma io le ripeto quello che l'ho detto. Cioè è legittimo, non mi rompete le scatole, uno può giocare, invece no, lei mi sembra che abbia chiesto addirittura scusa, voglia chiedere scusa, e questo mi sembra bizzarro. Ti dicono che in Parlamento non devi usare l'iPad, c'erano ragione, ho detto di no. Dopodiché le ho anche spiegato che si tratta di 5 ore di ostruzionismo, nel corso del quale si parlava della preparazione del curatello, delle code montate ai cani. Lo so, però il Parlamento duro Parlamento, sed dura Parlamento, duro Parlamento, come devono fare ammenda tutti quelli che si comportano male. Va bene, quindi bene. Traffico, torniamo subito per le cose cosiddette serie, che in realtà non so se siano più serie. Comunque torniamo. Bene, torniamo in onda qui alla Zanzara, 18:47, 800 24 00 24, in collegamento da Trieste il coordinatore nazionale di Futuro Libertà, Roberto Menne, che chiediamo subito, ma secondo lei stiamo bombardando, perché questo è un po' il dilemma, ha sentito prima, no, le incertezze di La Russa e di Berlusconi, stiamo bombardando oppure no? Mi pare che le incertezze sinceramente non ci siano, l'italiano tra l'altro è... una lingua che i termini adopera bene, non necessariamente il bombardare vuol dire bombardare a grappolo. Anzi, certo, appunto. In tutte quelle che sono le operazioni militari moderne si cerca di essere sempre, virgolette, chirurgici, motivo per il quale mi pare evidente che fino ad oggi i nostri aerei, o almeno così è stato fino ad oggi precisato, erano impegnati su operazioni antimissili, antiradar, eccetera, e nulla di più. Oggi si fa un gradino in più perché si dice che i nostri aerei bombarderanno e quindi colpiranno con bombe o missili o quel che sia, obiettivi militari, mezzi militari, eccetera. Per lei è giusto farlo? L'italiano sia chiaro. No, certo, per lei è giusto farlo? Io, se il Parlamento dovesse votare una risoluzione, come io auspico, voterei a favore. Cioè, siamo nell'ambito di un intervento che nasce dalla risoluzione 1973 dell'ONU, siamo in ambito NATO. La NATO oggi ritiene che sia opportuno passare ad un gradino superiore, come è del tutto evidente. Noi partecipiamo a tutto titolo e quindi si fa, e non bisogna dire che si fa per finta. Ecco, no, questo è importante, no? Bisogna dire perché che la Russia ha così paura a usare la parola bombardamento, dice no, potete stare equivoci, perché? Perché la Lega, che è componente essenziale della maggioranza di governo, ha detto non siamo d'accordo, ed è evidente che se oggi dovessimo andare ad un voto parlamentare, il governo e la maggioranza di governo si spaccherebbe. Beh, bisogna vedere, perché quindi poi dice, come la Russia sa, fa il furbetto, come sa, come sa, le cose si riaggiustano sempre poi tra la Lega e il governo, tra la Lega e la maggioranza. Abbiamo visto in tante occasioni, ma basta essere chiari. No, ma il problema è, c'è stato un incontro anche tra Bossi e Berlusconi in cui Berlusconi ha detto è tutto a posto, le cose rientrano sempre, certo che la Lega era partita da no all'intervento e adesso deve addirittura ingoiare il rospo dei bombardamenti. Sì, anche il governo, anche Berlusconi ha detto non vogliamo disturbare Gheddafi. Ricordo nei primi giorni della crisi lui disse che non era opportuno disturbare neppure una telefonata. E come no, certo, assolutamente. Quindi le cose sono un po' cambiate. Senta, Giovanardi ha ragione a prendersela con quello spot dell'IKEA? Ma vede, io personalmente, come Giovanardi, sono di cattura di cultura cattolica, quindi a me quel manifesto non piace, sinceramente. Dopodiché la famiglia riconosciuta dalla Costituzione è la famiglia naturale, quella composta da uomo e donna, dire che quel manifesto è contrario alla Costituzione mi pare un po' esagerato, come dire. Però a lei quel manifesto non piace? No, a me non piace perché, ripeto, sono di cultura cattolica e ritengo che la famiglia sia quella naturale, composta da uomo e donna. Dopodiché l'IKEA può fare quello che vuole. Dopodiché, certo, non si è mica reato, ha fatto l'IKEA. Cioè lei non li farebbe rimuovere quei manifesti, insomma? No, perché non avrei nessun potere e non sono certo contro la legge. Cioè le danno fastidio, nel senso che una volta che li guarda che cosa prova? Le ripeto che io per cultura e per convinzioni non sono d'accordo che quella sia una famiglia. Dopodiché però siamo in un paese libero, ognuno esprime quello che ritiene. Nel mio partito, anche su queste cose, ci sono uomini di provenienze diverse, di convinzioni filosofiche, culturali diverse, però perché siamo liberi. Cioè, secondo lei, per esempio, l'IKEA doveva stare un po' più attenta, data la sensibilità che c'è nel nostro paese, la questione della famiglia, cioè devono stare un po' più attenti i dirigenti dell'IKEA? Su questo, di solito quando uno fa una campagna pubblicitaria e di marchio studia pure le cose. Quindi, e dunque, da questo punto di vista hanno sbagliato? quindi vedranno loro se poi avranno un incremento o un decremento, ma non penso che alla fine sia legata il manifesto. Io ripeto, il manifesto non lo condivido, però non avrei nessuna autorità per dire. No, vabbè, d'accordo, però fare evidente. No, sì, no, però non le dà fastidio, cioè, vedere due omosessuali, ecco, che si baciano per strada, ad esempio. Non è che le dà fastidio, lei è un liberale, dovrebbe essere di cultura liberale, no? Futura libertà. Le ripeto quello che ho appena detto e non le aggiungo nulla. Cioè, non considera due omosessuali che si baciano per strada, non lo considera osceno, per intenderci, no? Meni a due punti, bello vedere due omosessuali che si baciano per strada, cioè l'ha non lo è normale o no? È normale o no? L'ha detto lei? No, devi Meri a due punti, a me non piace vedere. A me non piacciono? Va bene. No, ma non è questo l'obiettivo, non è questo il punto. La cosa che volevo capire è se a lei vedere due persone dello stesso sesso che si tengono per mano, come è raffigurato in quel manifesto, o fanno delle effusioni in pubblico, è una cosa che dà fastidio e che considero scena. Non lo trovo certo rispondente al mio modo di pensare, alla mia cultura e anche a quella che è la cultura tradizionale di questo paese. Dopodiché le cose cambiano. Ho capito, ma dunque Roberto Menia, cosa insomma, di fronte alla, come dire, all'esibizione, quello che le ho detto, no, nessuno mi dice che lo devo andare a defiggere, non glielo faccio defiggere. Dopodiché mi chiede se mi piace, no. Cioè non le piace vedere due persone che si tengono per mano o che si baciano, in due persone omosessuali che si tengono per mano e si baciano. No, perché le ripeto, la mia cultura è diversa. Certo. Credo nel diritto naturale, credo che l'uomo vada con la donna. Vede, se il mondo funzionasse in quel modo, probabilmente nell'arco di qualche di una generazione il mondo sparirebbe. No, mi scusi, no, però questa qua è la posizione classica dei tradizionalisti, come dire, più anche quelli più duri, cioè dicono se tutti fossero omosessuali il mondo sparirebbe. È una cosa un po' reazionaria. Come se tutti fossero razziali, dai. Uno può anche come lei a me chiede meri a due punti, eccetera, e le risponde nello stesso modo. No, ha risposto concretamente. No, ma per carità, ma io le faccio notare che è una posizione, per esempio, che all'interno del suo partito, in particolare il presidente del suo partito, o comunque il capo del suo partito, non credo che sia d'accordo, però da questo punto di vista. Sì, ma lo sappiamo, infatti noi su questa vicenda, per esempio, non siamo d'accordo, ma proprio perché siamo gente che ha rispetto delle opinioni altrui, e proprio perché nessuno di noi ha portato il cervello all'ammasso. Certo, credo certo che si possa avere anche opinioni differenti su questa vicenda. Senta, per cui lei, per esempio, sulle posizioni precedenti di Gianfranco Fini su questo argomento, quando disse un maestro elementare dichiaratamente omosessuale non può fare il maestro, lei era d'accordo con quelle cose e continua a essere d'accordo con quella posizione? Che non è più di Fini, peraltro. Guardi, è l'ostentazione quindi penso che anche lui all'epoca a questo si riferisce. Non mi sembra mai di dire che perché uno è omosessuale non può fare, figurarsi, no? Che non può fare l'insegnante come nessuna altra cosa. È evidente che se volesse proporre un modello ai suoi, immagino che questo volesse dire, se vuole proporre quel modello ai suoi alunni, direi che non è opportuno lo faccia. Ma non è, perché parla di modello? È un modo di essere, non è un modello. Un modo di essere, siamo d'accordo. Sono tanti modi di essere con i quali lui può non essere d'accordo. No, lui parlò esplicitamente di un maestro elementare dichiaratamente omosessuale che non può fare il maestro. Allora, chiedete a lui l'interpretazione. No. Io le dico quello che penso io. L'ostentazione, lei parla di ostentazione. Certo. Senta un'altra cosa, un'altra vicenda che riguarda invece i ballottaggi, i futuri ballottaggi, se ci saranno naturalmente. Qui, proprio qui a Radio 24 La Zanzara, l'ex vice ministro Urso ha detto che a Milano, turandosi il naso, al secondo turno è opportuno votare la Moratti. Lei che dice, oltre al fatto che spera naturalmente che il vostro candidato Manfredi Palmeri vinca, oppure vada al ballottaggio e che vinca al primo turno, se invece andassero Pisapia e la Moratti, lei che farebbe se votasse a Milano? Io le dirò che, premesso che mi auguro che Palmeri faccia per l'appunto il miglior risultato possibile, ma dando anche per probabile invece che si vada al ballottaggio tra Moratti e Pisapia, penso che la soluzione più opportuna, per quanto ci riguarda, sia di dare totale libertà di voto ai nostri elettori. Berlusconi ha voluto politicizzare queste elezioni comunali di Milano, andando tra l'altro a fare il capolista. Sì, succede sempre però, cioè non è la prima volta. Non c'è dubbio. Anche l'opposizione, anche l'opposizione diciamo di destra considera queste elezioni non solo elezioni locali ma anche nazionali, cioè non è una cosa. Sì, ma non c'è dubbio. Allora, è proprio perché lo schema nazionale ha avuto un certo tipo di evoluzione, proprio perché non per caso chi ne parla stava al governo e se n'è andato. Certo. Troverei abbastanza irrituale, non un granché coerente che adesso dicessi bene, vado ad appoggiare Berlusconi. Cioè, non, lei dice da coordinatore nazionale di Futura Libertà che Berlusconi a Milano non si può appoggiare. Dico, voto il mio candidato, dopodiché al secondo turno, come è noto, non ti ordina il medico né di fare gli apparentamenti, né di andare a votare, né per chi votare. Dopodiché, dico, la cosa più logica per quanto ci riguarda è dare piena libertà di voto a chi sta senza dare indicazioni e dicendo anche... Dicendo non è... scegliete quello che ritenete utile. Con il rischio di far vincere il centro-sinistra a Milano per la prima volta, però. Quindi il rischio che... Cioè, per lei è meglio Pisapia o Moratti sindaco? Questo è... Non voto a Milano e non mi faccia dire quello che non voglio dire. Questo è sempre l'obiettivo, però. Paraguro, Dopodiché, può succedere. Ma uno che vota a Milano di Futura Libertà. C'è il giornale radio. Lasciamo. Questa legislatura è cominciata con Berlusconi. Con una grande vittoria. Però Menia, mi mandano. Lo so. La richiamo. Ci rifletta un attimo sopra anche noi. Fra un quarto d'ora, altri due minuti su questo tema di Milano. Tra poco. Cara, io divento come una zanzara, zanzara. siamo qui di nuovo in diretta con la Zanzara, 19:17, 800 24 00 24. È incredibile come ci siano deputati che parlano un po' di tutto. Per esempio il nostro amico Mimmo Scilipoti, no, detto anche Scili, detto anche Scili, l'onorevole Scili, si esprime sulla Libia. No, si esprime sulla Libia, sulla Libia deve parlare il generale Jean, cioè chi si occupa di queste cose, il generale Jean Lime, Scaracciolo, dice Scilipoti, in dissenso dalla sua nuova maggioranza, che la decisione di intervenire con armi in Libia è il fallimento della politica. Ma che ne sa? L'Italia invece avrebbe dovuto svolgere un ruolo da mediatore. Una guerra non è mai una buona soluzione, dice Scilipoti. Cosa fare? Cosa farei se si dovesse chiedere un nuovo voto al Parlamento? Ma nessuno glielo chiede. Però. Cercherei di capire in che termini viene esattamente richiesto e poi deciderei. Ma io sono per la pace. Vabbè. Ma questo fare domande da soli. Cosa farebbe Scilipoti? Nessuno gliel'ha chiesto. Scilipoti, cosa farebbe poi, se qualcuno... a gestire una situazione di guerra? Cioè, ce lo vedi tu in un gabinetto di guerra, Scilipoti, come Churchill? Churchill era in un gabinetto di guerra, no? A Londra, sotto Westminster. Intanto sentiamo come ha risposto a Lucia Annunziata, che gli chiedeva a un certo punto perché lei parla sempre in terza persona, cioè l'onorevole Scilipoti, eccetera. È intervenuto l'altro giorno al programma in cui c'era anche Sgarbi. Sentite. Lei potrà verificare se le parole che sta affermando, le parole che sta sostenendo, quello che sta sostenendo l'onorevole Scilipoti sarà o non sarà la verità. Senta, ma perché lei parla di se stesso sempre in terza persona? Ma vede, mi fa piacere ogni tanto parlare in terza persona. Andiamo a sentire dalla voce di Maristel Polanco invece i titoli del TG, o meglio, ti ho defenestrato da questo compito. Mi hai tolto al lavoro, certo. E sentite che cosa deve dire? Ma com'è che cosa deve dire? Vabbè, ma è un modo per dire sentite cosa dice Bianca Berlinguer. Che cosa deve dire? Diretto. Ma è un modo, è sudamericano. Ma non è possibile, dai. Maristel Polanco. Buonasera a tutti. In questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer e ascoltate cosa deve dire. Vertice Italia-Francia, intesa per rivedere Schengen. Via libera di Sarkozy a Draghi. Berlusconi sulla Libia, non bombe, ma razzi di precisione. La Lega no ai bombardamenti, Calderoli, lo ripeteremo in Consiglio dei Ministri. Dissensi anche nel PDL, l'opposizione, linea ondivaga. Napolitano, l'impegno militare dell'Italia, naturale sviluppo della missione. Non potevamo restare indifferenti ai massacri di Gheddafi. Il premier, nucleare sospeso solo per evitare l'effetto Fukushima e il referendum. I promotori, smascherata la truffa, ora si voti. In settimana le nuove nomine nel governo, attesa e tensione tra i responsabili. Tremonti, polemiche false, con Silvio nessun problema. I francesi della Lactalis lanciano un'OPA per il controllo totale della Parmalat. Berlusconi e Sarkozy, no a guerre economiche. E in Siria il regime soffoca nel sangue la rivolta popolare. L'esercito fa irruzione nella città meridionale di Daraa sparando sulle case. Siamo qui, caro Parenzo, 800 24 00 24. Fra poco interpelleremo anche gli ascoltatori. Devo dire che giustamente l'opposizione fa casino per questa storia del referendum, la decisione del governo di evitarlo per non far raggiungere il quorum anche sulla vicenda del legittimo impedimento. Su una questo furbata, non c'è il minimo una furbata dubbio, clamorosa. Però è politica anche questa, diciamo la verità. Politica anche questa, una furbata, con dire. Grandi contraddizioni, perché a un certo punto abbiamo sentito il ministro Romani dire il futuro sono le energie rinnovabili. Oggi Berlusconi dice che il futuro è il nucleare. Bisogna un po' decidere. Si mettessero d'accordo al governo di cos'è il futuro. Assolutamente, però l'opposizione dovrebbe anche esultare per questa decisione, no, della moratoria nucleare. E invece in realtà non è che gli interessi molto questo argomento, gli interessa la ciccia, cioè far cadere Berlusconi. E sentiamo invece Sgarbi dall'Annunziata, che non ha parole carine, per esempio, nei confronti del neo ministro dei beni culturali, che lo ha, tra virgolette, defenestrato dalla sovrintendenza di Venezia. Alla sovrintendenza di Venezia, cioè Galan. Come il Banal Grande, Sgarbi, sentite. Galan non sa dove sta, questo è il fatto. Chiamavano un tempo una personalità di Venezia il Banal Grande. E allora io credo che non si possa discutere troppo su una persona che fa soltanto errori e manca di parole. Ora è evidente che per Sgarbi chiunque sia di ostacolo alla sua megalomania, un cretino, cornuto, stai zitto, alla sua mania di poltrone anche, alla sua mania di poltrone, perché colleziona incarichi dappertutto, diventa un cretino, un banale, eccetera eccetera. Per esempio Galan non ha un pensiero, sbaglia su Tremonti, Su Tremonti credo che abbia sbagliato, perché se c'è una mente di questo governo è Tremonti, e rispettare le idee è la cosa più importante che si può fare. Non conosco idee di Galan, non ne conosco una. Non ho mai sentito un pensiero di Galan se non privo di fondamento. Un atto di Galan, sì. Non ho conosciuto un atto di Galan solo perché di... secondo me era perfetto, no, per quel ruolo. C'era anche la Corte dei Conti, c'era anche la Corte dei Conti, sì, non c'era la Corte dei Conti che aveva stoppato un po' la cosa, però per quel ruolo secondo me il professor Sgarbi era perfetto, no? Ho capito. Dopodiché, ma... non è che può arrabbiare, si è arrabbiato con Urbani. Con chi si è incazzato storicamente Sgarbi? Urbani, che all'epoca era la cultura anche lui, no? Gliene disse di tutti i colori, non si capisce. Sì, la vicenda di Ida di Benedetto, Ida, l'attrice, eccetera. Poi con El Khan, anche con El Khan se l'ha presa. Prima era il migliore. Chiunque sia di ostacolo diventa un cretino. E infatti dice: nani, vermi e inetti vogliono distruggere Berlusconi. Magari c'è anche Galan tra questi, sentiamo. Ritengo che Berlusconi sia al centro di un'azione che non ha niente a che fare con la politica. È un'azione di distruzione di una persona fatta da parte di nani, di vermi, di gente inetta e incapace. Vabbè, poi a un certo punto Candida Renzi ha candidato del centrodestra dicendo che il migliore possibile, ed effettivamente io ormai da quando si è scagliato anche contro la CGIL sulla vicenda del primo maggio sono diventato un renziano di ferro più di quanto non lo fossi e già e qui prima. Ti do ragione, ha ragione Renzi. Bene, però abbiamo qui appeso, l'abbiamo fatto rimanere appeso apposta. Come un colibrì. No, lasciamo perdere i colibrì, che non è una discussione seria. Ne abbiamo, è una discussione ormai vecchia, tra l'altro, che sì, non più attuale. Non c'è dubbio. Venne fuori sempre per merito di Berlusconi e della coppia Berlusconi-Sgarbi, ricorderai. Come no? Quest'estate. Difesa appassionata dell'uccello. Il coordinatore nazionale di Futuro Libertà, Roberto Menia. Qui voglio chiedere però, la vera domanda è questa. La ripeto, ci abbiamo riflettuto un quarto d'ora. Di fronte all'ipotesi assolutamente probabile che a Milano, città dove si decide molto in queste elezioni, si trovino di fronte Giuliano Pisapia, candidato della sinistra, e la signora Moratti, candidata del centrodestra, il coordinatore nazionale di Futuro Libertà, cosa dice? Ripeto quello che ho detto prima. No, al secondo turno il medico non ti ordina di fare gli apparentamenti, la cosa più corretta è dare la libertà di voto a quelli che ci hanno scelti al primo turno. Sì, ma Flì, non è un partito di centrodestra. Voi avete sempre detto: noi siamo ancorati nel centrodestra. Il rischio di far vincere il centrosinistra a Milano dopo 15 anni non sì, vi... Ma è anche vero che noi abbiamo rotto con un certo centrodestra rappresentato da Berlusconi. Ma la Moratti non è Berlusconi. Berlusconi fa il capolista della lista della Moratti. Dunque, del PDL che sostiene la Moratti. Dunque, su Milano voi non combinato avete... di sto... sì. Poco fa è successo qualche cosa, per esempio su quei manifesti, sì, dove c'era scritto null'altro di ciò che aveva detto il Premier qualche ora prima. Ah, su questo non c'è dubbio. Su questo non c'è dubbio. Motivo per il quale io penso che legittimamente io mi porrei il problema. Non abito a Milano e quindi non vabbè, però lei è coordinatore di un partito, no, e magari ogni tanto dubbio, il partito... E quindi, certo, non c'è dubbio, i partiti infatti non sono... Non sono un sacerdote, non siamo delle chiese. No, assolutamente. No, però quindi ti chiedo l'indicazione. L'indicazione, a mio modo di vedere, non può essere. Prima mi avete chiesto: lei è d'accordo con ciò che ha detto Urso? Io non sono d'accordo con Urso, perché non vedo, perché dovrei sostenere che a prescindere da ciò che accade al primo turno, che non lo conosciamo, sì, e a prescindere comunque dal dato, sosterremo comunque il duo Moratti-Berlusconi, perché con Berlusconi abbiamo rotto per una serie di questioni che afferiscono alla legalità, all'etica, alla politica, tante cose. Motivo per il quale io penso che responsabilmente chi a Milano andrà a votare al secondo turno, riterrà di votare o di non votare, avrà piena libertà di scelta. Però lei, se deve dare e un'indicazione, non necessariamente essere condizionato a votare Berlusconi. E dunque, diciamo, agli elettori di Futuro Libertà, eventualmente al secondo turno, però l'indicazione è una. Cioè, Libertà di scelta. Libertà di scelta, però tenendo conto del fatto che Berlusconi si candida capolista e che noi abbiamo rotto con Berlusconi. Cioè, alla fine, la domanda non è peregrina quando uno dice: voi, di fronte alla possibilità di vittoria di Pisapia, siete meglio Pisapia di Berlusconi? O no? Essendo candidato di là, per forza. Meglio, alla fine al meglio... ballottaggio accade sempre questo. Al ballottaggio, lei sa che al secondo turno poi spesso non si vota per amore, ma si vota per forza. Si vota il meno peggio di solito. E quindi turandosi il naso, Pisapia. E quindi gli elettori di Milano che hanno votato al primo turno Futuro Libertà, se riterranno di andare a votare turandosi il naso questo o quello, lo sceglieranno in piena coscienza. Ho capito, per lei si può, un elettore di destra può turandosi il naso votare Pisapia? Non sarebbe una follia? O no, non sarebbe una cosa contro natura? Pronto? Accade in tutti i ballottaggi, ripeto, accade, può accadere questo e quello, perché è nella natura delle cose. è nella natura, è nella natura. Cioè vuol dire Futuro e Libertà, gli elettori di Futuro e Libertà possono anche votare Pisapia, non è un problema. Votino chi ritengono di votare. Dare libertà di scelta vuol dire questo. Penso ci sia bisogno di traduzione. Eh no, no, ma lei è molto bravo, devo dire, a sfuggire alla questione principale, che poi prima o poi si porrà e noi saremo qui. Ma no, perché saremo ci piace, pronti. Ma non perché ci piace inferire, per carità. No, no. Perché adoriamo queste. Lavoro, mi pare doveroso. Assolutamente, perché facciamo il nostro lavoro. Com'è lì a Trieste? C'è la bora oggi? Stamattina c'era un po' di borino. Un po' di boretta. Borino. Chiedo scusa. Va bene, grazie. Cosa fa stasera lei? Grazie a voi. E che deve fare stasera? Vai in pizzeria, va a cena fuori. Vuole sapere, Parenzo è curioso di sapere cosa fa. Menia, no, interessante. Sono a casa e mi cocco la bambina. Sono una bambina piccola che vedo poco, per cui quelle rare volte che sto a casa. Bravo Menia. Bravo. Grazie, Parenzo è molto invidioso perché lui invece queste cose sono sempre in giro. È sempre in giro, dunque la bambina piccola non se la può coccolare come vorrebbe. Caro Meni, arrivederci. Buona serata, grazie. Allora andiamo Stefano da Reggio Emilia. Ride perché siamo ospiti, ogni tanto facciamo ridere, no, meno male. Gli ho chiesto cosa fa, non è che gli ho detto Stefano da Reggio Emilia. L'ho accusato di reati. No. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Come state? Tutto bene. Noi facciamo nel traffico del rientro, fate una bella compagnia interessante. Grazie, dica. Ma no, il tema oggi è questo: le dichiarazioni del nostro presidente del Consiglio, che durante la conferenza stampa Italia-Francia, in mezzo alle bombe e al latte, ha fatto passare così en passant la dichiarazione sul nucleare, dove ufficialmente ha accettato la maschera. Secondo me di un punto: uno, che il nostro Stato, purtroppo, non so quello che ne pensate voi, ma di fatto non ha una politica energetica. Ah, su questo non c'è dubbio. Una volta dicono il nucleare, una volta no, una volta le energie rinnovabili, poi tagliano gli incentivi, non si sa dove vogliamo andare. Bravo, questo è vero. E in più l'altra cosa, che oggettivamente a me personalmente un po' dà fastidio, anche qua non so voi, il fatto che lui si preoccupi della nostra tranquillità, pensando lui quello che è bene per noi, sinceramente un po' dà fastidio. C'è questo atteggiamento da signore feudatario, dicendo no, ma è meglio che non facciamo il referendum perché così state tranquilli. Sinceramente un po' lui se le tenga per sé queste cose, perché quello che mi farebbe piacere è che il Presidente del Consiglio, lo Stato, se possiamo sintetizzare così, che si preoccupi di favorire una discussione pubblica su quello che è bene per il Paese. Bravo. Perché io personalmente sarei favorevole al nucleare. Allora, che dicano per esempio in anticipo, senza aver nascosto, dove sono i siti, quali sono i vantaggi. No, ma al di là di questo, Stefano, al di là di questo, adesso devo dare la linea alla borsa. Credo che ci sia un punto fondamentale. Cioè, l'obiettivo non è quello di avere, come dire, un progetto che guardi al futuro, è quello di guardare ai prossimi mesi. E nei prossimi mesi c'è la scadenza del referendum. E dunque bisogna evitare che si tenga il referendum perché potrebbe avere contraccolpi politici, eccetera, eccetera. Detto questo, si tentenna tra l'idea di abbandonare definitivamente il nucleare e l'idea di rimetterlo in pista tra qualche mese quando tutto sarà dimenticato, l'idea di sostenere viva e forza le energie rinnovabili e nello stesso tempo poi non fare niente di concreto per promuoverle. Andiamo a sentire la borsa, torniamo tra un attimo. Siamo qui 19:33 800 24 00 24, frasi roboanti da parte di Umberto Bossi. Con le parole del Premier arrivano i clandestini. Okay. Cioè, con le parole del Premier pronunciate oggi sui bombardamenti, che poi non sono tanto bombardamenti, secondo Berlusconi e secondo la Russia, razzi sono di precisione. Razzi di precisione, razzi. Su obiettivi militari. Razzi che non è quello dei responsabili. Chiamare... No, no. Razzi, non è quello dei responsabili. No, sono i razzi. Razzi di precisione. Razzi di precisione. E dunque non chiamarli bombardamenti, nemmeno tu, Parenzo, per carità. Non bisogna chiamarli bombardamenti. No. Con i razzi di precisione arrivano i clandestini, cioè Gheddafi ci riempirà di clandestini. Questo ha detto Bossi pochi istanti fa. Secondo me alla fine tutto come al solito si ricomporrà, e se ci sarà un voto su questa storia tutto alla fine rientrerà. Però andiamo a sentire Dario da Milano, buonasera. Pronto? Sì, buonasera Dario. Buonasera, senta, ma io volevo solo dire che non ne posso più di sentire questi politici, spesso di area cattolica, che dicono no, non mi danno fastidio agli omosessuali, ma in privato, se stiano per fatto loro, non devono ostentare. Dove ostentare significa tenersi per la mano in pubblico. Allora io, quando vado in giro con mia moglie, ostento la mia eterosessualità, beh, allora anche quella è una libertà personale, ostentare, se quello è ostentare, la propria omosessualità. Bravissimo. E poi anche un altro discorso, le libertà personali, no? Sono i liberali perché dicono sempre questa cosa, allora dico no, ma io sono un liberale, sono una persona, è una libertà personale anche rivendicare in pubblico la propria affettività, ovviamente come non deve esagerare un eterosessuale in pubblico con delle fusioni e tutto, non deve esagerare con le stesse regole un omosessuale. È così, Dario, secondo me è così. Detto questo qualcuno si viene turbato se vede una scena di due persone dello stesso sesso che si baciano, si prendono per mano. Lo stesso diceva prima anche l'onorevole Menia, che è coordinatore nazionale di Futuro e Libertà, cioè la destra moderna. Però lui diceva così, perché dice nel nostro partito ci sono varie posizioni. Dario, grazie. Antonio da Firenze, buonasera. Buonasera. Dica. Mi ricordate tantissimo Giuliano Ferrara a 9:30, voi due. Veramente era 8:30, 9:30 è un'ora dopo, però va bene. 8:30, ero troppo avanti. E io sono uno di quelli che è turbato in pubblico. Io ho colleghi che sono omosessuali, non ho nessun problema, non penso che l'orientamento sessuale incida assolutamente. Però sì, io mi ricordo ancora all'università, vidi davanti a me due persone, due uomini che si baciarono e rimasi turbato. E penso che non ci sia niente di male nel dire che si possa essere turbati. Dunque lei di fronte per esempio ad un manifesto come quello dell'IKEA, della pubblicità, adesso stiamo facendo Giovanardi senza accorgersene ha fatto una pubblicità spaventosa naturalmente all'IKEA, che non ne ha bisogno perché era è una grande multinazionale, ma in ogni caso di quello si sta parlando. Di fronte a quel manifesto con due persone omosessuali che si prendono per mano, lei che reazione ha? Mi girano un po' le palle, nel senso che io devo andare a prendere comunque dei mobili per la mia bimba, francamente ora mi girano un po' le palle andare IKEA. Per i cattolici... Cioè lei, lei dice, se io vedessi di fronte all'IKEA un manifesto di questo tipo, non so se oltre a Catania è stato affisso anche da altre parti, avrei problemi a portare la mia figlia dentro l'IKEA. Adesso questo francamente... No, nel senso... Lei questo sta dicendo. No, ma... mi girano le palle, perché se l'IKEA avesse fatto un manifesto contro i gay, niente vieta di farlo, e probabilmente ci sarebbero stati picchettate tutte le IKEA di questo mondo. Beh, scusi, un manifesto contro... non è che questo è contro qualcosa. No, ma certamente, ma nel senso... se c'è l'utilizzazione della parola famiglia, d'accordo, insomma, è chiaramente... è un messaggio pubblicitario, cioè siamo è l'amore, è la vita, è l'amore, si rassegna, sì, amico ma mio. Io non è, ma caro io Ruggero, si rassegna anche lei. Basta con questa storia. Ruggero, si rassegni. Si rassegni. Ma è Ruggero in diretta? Maurizio Ruggero? Chi è? È Ruggero, il tuo amico. Succede, no. Mi capita. Mamma mia. Allora, vogliamo ricordare Maurizio Ruggero, che è presidente di che cosa? Beh, sono delle tante associazioni cattoliche tradizionaliste che ci sono al mondo, ce n'è anche una che fa capo a Ruggero. Che fa capo. Come si chiama questa associazione? Si chiama Sacro Imperio, poi c'è un'altra che si chiama Comitato Celebrativo delle Pasque Veronesi, che è l'insurrezione di Verona contro Napoleone. Sì, roba sempre di grande attualità, sempre cose modernissime. Sì, bravo, proprio di grande attualità, perché... Ma basta con queste cose, dai. E no, noi patiamo ancora le conseguenze di quelli come lei, che avendo fatto la rivoluzione francese, hanno questa società da schifo. Schifo, certo. I veronesi sono appassionati a questi temi. A Verona! Tutti i giorni! A Verona, tutti parlano del suo Sacrum Imperium! Ma mi faccia il piacere! Guardi, è gente per bene a Verona, Ruggero. È gente per bene, si vergogni. Posso rispondere? Sacrum Imperium. Gaudeamus igitur, altro che Sacrum Imperium. Gaudiamus, igitur, godiamo, allora. Sì. Su. Allora, mentre noi facciamo i banchetti per le sale di Verona, ci conoscono tutti. I banchetti. Sì. Di Parenzo, delle sue fesserie omosessualiste, non le può fregare di meno nessuno. No, fesserie omosessualiste. Scusi un attimo, Ruggero, lei all'IKEA cosa direbbe? Faccia un comunicato all'IKEA. Ci lei, manca Maurizio. Solo Ruggero sull'IKEA. Ruggero sarebbe meglio che chiudesse l'IKEA, anche perché... Ma non dica... L'IKEA da posti di lavoro, il suo Sacrum Imperium. Ma secondo lei possiamo vivere anche senza l'IKEA? Vivere senza Sacrum Imperium, non senza IKEA, no, capito? No? O altri magari. Possiamo vivere anche senza Parenzo, cioè sono di persone. Ho capito, ma ammetterà Ruggero che l'IKEA è più importante dell'associazione Sacrum Imperium no? È esattamente il contrario, perché se il parametro è quello di ordine economico, lei ha ragione. Ma allora vuol dire che lei è diventato soltanto un essere puramente materiale. Secondo me i valori dello spirito sono più importanti. Scusi un attimo, lei se vedesse di fronte a lei, se lei vedesse di fronte a lei quell'immagine di due uomini che si tengono per mano, con scritto non mi ricordo che cosa, perché poi Giovanardi mi ha fatto perdere la testa. Siamo aperti a tutte le famiglie. Come reagirebbe? Non entrerebbe all'IKEA, promuoverebbe un boicottaggio. Se l'IKEA aprisse a Verona, adesso non so se, se l'IKEA fosse... No, è a Brescia l'IKEA, guardi, se è a Brescia, più vicino a IKEA, gli faccio anche la pubblicità. Credo che sia a Brescia. E allora? No, ma io, a parte che non sono mai entrato in un negozio IKEA, ma una ragione in più per non entrarci è questa, anche perché o tu mi promuovi i mobili per una famiglia tradizionale, oppure? Cioè per la famiglia tout court, oppure se invece i mobili devi proporre veicolando anche un messaggio omosessualista, te li tieni, te li porti in Svezia, ma... e li dai magari a quelli islamici, perché li chiede. Ma che c'entrano gli islamici? Cruciani, mi fa parlare o no? Ma... lei si ricordano la campagna dell'IKEA, no? Contestata dagli islamici perché era stata giudicata politicamente scorretta. Io me la ricordo questa. L'IKEA, come al solito, di fronte agli islamici, di fronte piega la testa. Di fronte, rotta. Invece, in questo caso, di fronte a chi? A Giovanardi dovrebbe calare le braghe di fronte a Giovanardi. Di fronte ai cattolici, tutti quanti, quelli come lei, quelli come Parenzo, ce la sputano in faccia. E sarebbe una cosa. Ma veramente non sputa in faccia a nessuno, scusi, abbia pazienza. No, invece, perché nel momento stesso in cui lei sostiene quelle tesi, è evidente che ce l'ha quella. Con ma io quale tesi sostengo? Io sostengo la libertà dell'IKEA di fare tutto, qualsiasi tipo di campagna pubblicitaria che vuole, se non offende nessuno. Non mi pare che questa pubblicità offenda qualcuno. Chi viene offeso da questa pubblicità? E invece io sostengo che anche la pubblicità, come tante cose al mondo, anche per esempio le opere di carattere culturale, come era un tempo, devono avere anche una finalità di carattere morale. Ed è bene che anche la pubblicità favorisca questo, anziché favorire l'immoralità diffusa. Ma lei allora brucierebbe anche delle grandissime opere d'arte come L'origine del mondo? Se lo ricorda quel quadro bellissimo con quella enorme L'origine del mondo, no? Quell'enorme vagina che c'è lì, bellissimo. Io mi ricordo benissimo una trasmissione fatta con lei a Tele Lombardia in cui mi esibì quel quadro dalla mattina alla sera, praticamente, no? Perché evidentemente lei c'ha la fissa di quel problema lì. No, non è un problema, è l'origine del mondo. È l'origine del mondo. Scusi, Parenzo, quello non è affatto un grande quadro, punto primo. Vabbè, punto allora secondo, lasciamo perdere. Non ci faccia le lezioni d'arte, vieni qui a farci secondo, la morale, l'etica. Punto secondo, se lei si guarda, per esempio, tutte le opere, ad esempio di Shakespeare, vede sempre che c'è una finalità di carattere morale, perché il male è castigato e il bene... Scusi, dunque, lei è d'accordo con quello che diceva prima l'onorevole Menia, coordinatore di Futuro e Libertà, quando dice se il mondo andasse verso la direzione indicata dai manifesti dell'IKEA, dopo un po' saremmo tutti morti, immagino di sì. Non è che ci vogliamo un genio della politica per capire. Beh, insomma, non è proprio politicamente corretto. Per carità, a noi piace il politicamente scorretto. Però, insomma, il coordinatore nazionale di Futuro e Libertà, ma questo non le interessa perché lei appartiene ad un altro. A me sembrava che voi interessassi invece il politicamente scorretto soltanto alla parte progressista, perché vedo sempre genuflessi di fronte a tutte le idee correnti, le più corrive. Ma quali sarebbero le idee correnti? Se l'IKEA fa un manifesto in cui dice siamo aperti a tutte le famiglie, ci sono due uomini fotografati di spalle che si tengono per mano, per me fanno una grande operazione di marketing, e infatti è quello che è successo. E dov'è l'oscenità? Lo vede Cruciani che lei è genuflesso rispetto alle idee correnti? Ha appena fatto l'elogio di se stesso dicendo io sono per il politicamente scorretto. Ma non in questo caso, non è che il politicamente scorretto significa dire che l'IKEA fa un'oscenità. E invece Cruciani, a dispetto del nome, forse lo ha da questo punto di vista provveduto Parenzo a fare un'operazione, non lo so, la forza circoncisa, non so cosa dire. Dai, non lo so, devo pensare tutto, evidentemente. Difendo l'IKEA, allora. Ma non è che difendo l'IKEA, non me ne frega niente di difendere l'IKEA. Dico semplicemente l'IKEA. C'era sembrato. Sa. Cioè, non mi offendo di fronte a un manifesto del genere. Non dico è stata violata la Costituzione. Non è che ha detto così, ma insomma. La Costituzione non me ne può fregare di meno. Guardi, questo l'ho capito. Ho simpatia per lei, si comincia a dire così. Ma lei ha l'ossessione dell'omosessualità. Lei è ossessionato. Di tutto ciò che è sesso, che è vita, che è felicità. Proprio ossessionato lei dal sesso. Siete voi che mi chiamate ogni volta che c'è una bandiera sodomita che si agita. Ma qual è la bandiera sodomita? Che ha alzato una bandiera sodomita? Mi dica la verità, scusi, Ruggero, mi dica la verità. Secondo lei l'IKEA ha alzato e sventola una bandiera sodomita? Una bandiera filo sodomitica. Ma che vuol dire poi filo sodomitica? Quello che mi dà faccio notare agli ascoltatori è che Cruciani non può avere la botte piena e la moglie ubriaca, cioè non può dire io sono per il politicamente scorretto, cioè vantarsi di in generale quando poi è genuflesso di fronte al la peggiore mitologia fasulla di questi tempi, che è quella pro homosex. Non è che sono né pro né contro contro homosex. Comunque resti lì, Ruggero. Giacomo a occuparsi di cose importanti. Giacomo dalla provincia di Lucca, la battaglia di Lepanto, di cos'è che si occupa. Giacomo, dica. Sì, buonasera. Intanto il mio intervento era lo dico dopo di questa cosa, che praticamente l'IKEA ha ottenuto quello che voleva, cioè fare pubblicità, quindi, e se ne parla molto. La seconda cosa, mi sente? Sì, grazie all'onorevole Giovanardi questo qua, eh. Sì, comunque è proprio assurdo, comunque l'Italia è questa, bene, cioè prendiamo le cose, dica. Sì, ho capito, dopo abbiamo capito questa cosa. L'altra cosa è questa, cioè io, quel signore che giocava in Parlamento con quel cosino che io non so neanche pronunciarlo e non so cos'è. Sì, con l'iPad. Okay. iPad. Che non so che cos'è. È l'unica persona, penso, in Italia a non sapere cos'è l'iPad, ma sto scherzando. No. Assolutamente, ne siamo noi, forse che viviamo in un micromondo, Giacomo. Lei fa benissimo a non sapere che cos'è l'iPad. No, è uno strumento elettronico, diciamo una tavoletta con cui si può navigare, eccetera, eccetera. Comunque. Comunque, no, io proprio non lo conosco proprio. Va benissimo, perché... no, Giacomo, non è obbligatorio. Okay. Perché si può campare tranquillamente senza. Anche se io c'ho, cioè, il computer lo faccio usare a qualcuno che lavora per me, in tutti i casi. L'altra cosa che volevo dire, ma questi politici, sì. Quando tornano a casa la sera, cioè, si sentono a posto con la coscienza. Ma che vuol dire così in generale, Giacomo? Che è successo adesso? In generale. Ma ho capito, cioè, che ne so, in generale non si può dire, cioè, non so, ognuno si guarderà allo specchio. Ma questi geometri, come dire, quando tornano a casa? Cioè, questi commercialisti, quando tornano a casa, si sentono in pace? Io parlo della nostra classe, delle persone che dovrebbero governare questa. Ho capito, Giacomo, ma lei non può dire questi politici si quando tornano a generalizzare così. No, perché li dico tutti, perché non c'è, cioè, per me sono tutti così. Ho capito, però vada nello specifico, ci parli di un argomento, altrimenti diciamo i politici fanno di schifo, chiudiamo la radio e ce ne andiamo. No, ma il suo, chiaramente lei fa il suo mestiere, no? Io non faccio ne faccio un altro. Mi può prevalere quando vuole. In tutti i casi io parlo della politica in generale e di tutti i rappresentanti, che non sto a pronunciarli, perché da destra, da sinistra, Giacomo, sono tutti. Mi sembra che lei voglia... È stato punto da Beppe Grillo. Sì. Un attacco di grillismo acuto. E con questo andiamo in provincia di Bari da Michele. Buonasera. Michele? Sì, ciao. Buonasera, dica. Buonasera, Cruciani. Dica. Anche a Parenzo, poi mi dà le coordinate, Parenzo, che gli manda un'ambulanza. Io sono intervenuto quando Vittorio Scarbi aveva detto, almeno era il primo intervento, sulla libertà, cioè praticamente il sequestro da parte dei giudici, come Brigate Rosse. Sì, sì. Tutto sommato, io sono d'accordo, non posso essere in disaccordo su questa cosa. Con chi è d'accordo, mi scusi, con Sgarbi? Certamente, soprattutto sì, ho capito. Uno può fare, scusi un attimo, Michele. Uno può fare tutti i paragoni che vuole, anche piuttosto arditi. Però paragonare l'arresto che poi risulta ingiusto di una persona viene scarcerata, con il sequestro delle Brigate Rosse, mi sembra un po' fortino. Ecco, per usare un eufemismo, o sbaglio? Perché secondo lei si possono accostare queste due cose? Perché è curiosa. Si possono accostare perché ci sono state molte persone note che sono morte anche per un arresto. Io mi ricordo da qualcosina, magari sarebbe morto lo stesso, avrebbe avuto... Ho capito, ma non c'è dubbio, siamo noi i primi a condannare queste cose. Sì, ma la libertà per molte persone significa anche vita, cioè vita. Io immagino quando una volta da medico sono stato chiamato da un giudice, cioè per me soltanto per un avviso, perché una persona è stata curata da altri colleghi, eccetera, eccetera, cioè... Per me la libertà è una cosa indescrivibile. Cioè ecco, no, ma certo, vero, infatti Rosse, da parte dei giudici... Quando uno finiva le Brigate Rosse, cioè in mano alle Brigate Rosse, non si sapeva se tornava, cioè quasi tutti sono tornati. Sì, ma non può essere la stessa cosa. Un accostamento folle, lo capisci o no? Cioè, le Brigate Rosse agivano contro lo Stato. No, i magistrati possono sbagliare, come... È logico, l'ha detto Vittorio Sgarbi, sì, lui usa tutte queste, diciamo, strategie verbali, accostamenti, però sono provocazioni. Sono follie, però... questa è una follia. Dire che i magistrati sono come le Brigate Rosse è una follia. No, assolutamente. Come ci sono medici, giornalisti che sbagliano, ma non diremmo mai che un giornalista è un brigatista o che un medico è un brigatista, così non possiamo dire che un magistrato è un brigatista. Le Brigate Rosse lottavano contro lo Stato per mettere una dittatura comunista in questo paese, capisci o no? Che è una follia. È una cosa completamente diversa, cioè utilizzare questo argomento è sbagliato, cioè si perde, gli argomenti perdono forza, argomenti anche forti che possono essere utilizzati nei confronti dei giudici come che sbagliano. Come quelli che danno del fascista a chiunque, dicono fascista, lei è un fascista. Sì, d'accordo, però due giorni fa a Pasqua io mi trovavo a Luttago e c'era una trasmissione, un'intervista su un giudice tunisino, mi pare che su Radio 24 News. Vabbè, allora? E il giudice tunisino spiegava un po', cioè non è che siamo tanto diversi noi dai magrebini, almeno la Tunisia fino a qualche tempo fa era uno dei paesi del Maghreb un po' più... Allora, giudice tunisino, che c'entra il giudice tunisino? Diceva che tutti i giudici possono sbagliare, però molti giudici sono corrotti, molti giudici appartengono a una classe politica, hanno un filone loro, quindi ho capito, ma queste sono discussioni che possiamo fare, la politicizzazione della magistratura, cioè, è l'accostamento tra le brigate rosse e i giudici, e chi sbaglia deve pagare. Va bene, Michele, ho capito, non c'è dubbio, grazie. 19:50 800 24 00 24, in collegamento da Treviso Giampaolo Gobbo, buonasera. Buonasera dottor Cruciani, buonasera David. Come stai tu, Gobbo? Ma mi tiro avanti e spero bene. Vabbè, ma cominciate così a parlare il vostro dialetto, non si capisce più niente. Mi piace qui. Gobbo, perché parla come che il magna il Gobbo. Vabbè, ho capito, ma non è che stiamo qui a Radio 24. Radio 24. E il ga da imparare, come che se parla in Veneto la radio della Confindustria. Come si dice in Veneto, fuori di ball, Gobbo? È fuori dei balli. No, anche fuori dei coglioni alle volte, no? Sì, va ecco. Bene, dai, ma insomma... Vabbè, Gobbo. Si possono utilizzare anche, come lei sa, la zanzara, si possono utilizzare anche questi termini in modo scherzoso. Zona franca, non abbiamo problemi. Senta, Gobbo, ma come si mette qui? Si mette in maniera complicata nei rapporti tra Bossi e Berlusconi, oppure alla fine rientra tutto come al solito sulla questione dei bombardamenti? Insomma, Gobbo, lei queste bombe sulla Libia le tirerebbe oppure no? No, allora cerchiamo di capire anche un po' di situazioni, perché abbiamo visto che la Francia si è ben tirata indietro quando c'è stato il problema Iraq, perché con la Total e con la ERG le concessioni in Iraq le aveva già. Vediamo invece che in Libia è partita subito, addirittura prima ancora che la NATO potesse addirittura dare il via a questa operazione. E dunque i francesi sono intervenuti in Libia per i loro interessi. Questa è la cosa. Secondo me, certamente. Ma noi adesso Berlusconi oggi ha detto: lasciamo perdere la terminologia, non bombardiamo, ma i razzi di precisione sugli obiettivi militari. Per lei è la stessa cosa, diciamo la verità. Guardi, io ho visto. Noi abbiamo, e questo dovete darci atto, che anche quando c'è stato il bombardamento in Serbia con tutte le bombe intelligenti e qualche nostro anche deputato era là e ha visto direttamente, pur tutta l'intelligenza che tu metti alle bombe, abbiamo visto che sono saltati corriere civili, addirittura pulmino dei bambini e tante altre situazioni. Dunque i bombardamenti sono i bombardamenti, non c'è inutile stare là. Io credo, certo, e questo certamente non credo ci porteranno più clandestini? Ma c'è un riflesso, ovviamente. Noi sappiamo che già la guerra, diciamo, attenzione, anche qua è un discorso da capire, ma non per fare ipocrisia, però chi è sotto le bombe è un rifugiato politico, quantomeno un profugo. Chi invece viene qua per, ovviamente, come tanti dicono, far fortuna o cercare lavoro, i tempi non sono certo quelli così positivi. Quindi diciamo una cosa, che quelli che purtroppo vivono in certe situazioni, attenzione, a prescindere che certamente non possiamo risolvere tutti i problemi del terzo mondo a casa nostra, questo dobbiamo dirlo molto chiaro. Ecco, ma lei cosa farebbe? Se mettiamo che adesso con questi bombardamenti nuovi dell'Italia, o comunque con un'escalation militare cui l'Italia contribuisce, almeno sembra, arrivino più profughi in Italia, che dobbiamo fare un blocco navale, sparare, che dobbiamo fare? No, ma io credo invece che siano da aiutare a casa loro, ma non certamente con un interventismo militare. Mi sembra di essere, guardi, abbiamo fatto il 150esimo, no? Dell'unità cosiddetta d'Italia, no? Sì. E adesso mi sembra che stiamo facendo il 100° anno della conquista della Libia, no? Nel 1911 con Giolitti siamo andati in Libia perché l'Italia aveva la voglia dell'espansionismo. Dunque Berlusconi, quindi, come Mussolini da questo punto di vista. Quindi dell'impero. No, quello l'ha detto lei. Lei dice, parlava di Giolitti, non il gelataio di Roma, immagino. No? Parlava di Giolitti. Scusi, Giolitti. No, vabbè, che c'entra, quello però 1911 non c'era il fascismo. Io non dico questo, non dico Berlusconi come Mussolini, assolutamente altri tempi, altre logiche, anche perché nel 1911, gentili signori, non c'era Mussolini. E lo stavo dicendo. No, infatti è stato un lapsus. È stato un lapsus. Signori, c'erano i Savoia, e comunque il governo era guidato da Giolitti, non c'era... No, ma infatti lo stiamo dicendo, è vero, no, è vero. Ho confuso con Gentile, chiedo signori, scusa. Per carità... No, errore, adesso non è che mi deve rompere le balle, però, sbagliato, pensavo fosse Gentile. In un secondo ci siamo ripresi. Dopodiché, state giocando col fuoco. Lei sta dicendo una cosa, mi sembra che siamo tornati ai tempi della riconquista della Libia, giusto? Della conquista della Libia, no? Sì, ma che non la facciamo noi, ma la fa la Francia, questo un po'. E noi ci accodiamo però, o sbaglio? Prego? Ci stiamo accodando. Ma senz'altro, questa non è, per carità, siamo NATO, siamo tutto quello che volete, ma le conseguenze le abbiamo noi che siamo immediatamente vicini a questi confini, quando l'Europa, abbiamo visto, Francia, Germania e tutti gli altri stati che non hanno assolutamente nessuna intenzione invece di rispettare l'ospitalità per profughi e per altre situazioni. Senta, ma lei di fronte ad una massiccia, tra virgolette, invasione di clandestini, cosa farebbe? Cioè, l'estrema razio, ci potrebbe essere anche l'utilizzazione delle armi con un'estrema razio o no? Non sono rifugiati, ma le armi credo non siano oggi nel 2011 siano le armi, perché sappiamo benissimo che certe potenzialità ci sono, anche perché purtroppo vede quello che c'è qua in questa, nella nostra gente, è il timore che questi purtroppo non vengono sì per lavorare quando non c'è lavoro, parlo dei clandestini. E che vengono a fare? Il problema è purtroppo, guardi, se vuole le dico un po' di numeri, a Montebelluna ne hanno arrestati 8 che spacciavano droga, ragazzi addirittura sotto i 18 anni. Cioè, quindi, secondo lei vengono tutti per delinquere questi qua? No, tutti, per carità. Non e quanti? Come il discorso che faceva giustamente prima quei giudici, no? Quindi non cerchiamo di fare tutta una cosa, però nella popolazione, grazie anche ai media e quindi a tutti questi messaggi mediatici che vengono mandati e spediti di angoscia e di tutto, perché in verità diciamo che purtroppo c'è una situazione di clandestinità, ma anche di delinquenza che si sposa dalle nostre parti molto profondamente. Nel carcere di Treviso diciamo che c'è un buon 70% di carcerati che hanno queste caratteristiche. Ho capito, adesso andiamo con la pubblicità, poi le faccio sentire una cosa di una persona che lei conosce molto bene, 800 24 00 24, questa è La Zanzara, caro Parenzo. Torniamo tra un secondo con Gobbo, che è il sindaco di Treviso, uno degli uomini più rappresentativi della Lega nel Triveneto, e naturalmente con gli ascoltatori. La Zanzara tra poco. Eccoci, siamo di nuovo in onda alle 19.59, 800 24 00 24. Vorrei fare sentire a Gobbo questa voce che lui sicuramente riconoscerà. Io dico a Maroni, Calderoli, Bossi, ragazzi, io ho bisogno di combattenti, di legionari, gente che difendano il popolo leghista, il popolo veneto o il popolo padano. Sia questo il messaggio che io dico da sceriffo d'Italia numero uno. No, c'è troppo buonismo, c'è troppa tolleranza, c'è troppo permissivismo. La Lega non è questa qua, la Lega è una Lega di battaglia. E io da sceriffo d'Italia numero uno dico che voglio che ci siano provvedimenti drastici ma risolutivi. Questa è la disgregazione dello Stato, una tolleranza, una forma di caritas che non è la caritas cristiana. E ci siamo riempiti strade, città, puttane da tutte le parti, delinquenti da tutte le parti, spaccio di droga da tutte le parti. Io sono un leghista che non tollero queste cose. Ma dov'è Gobbo, tutta sta roba, Gobbo? Gobbo, questa è la pancia. Questa però è la pancia. Voglio dire, in questo momento il popolo leghista, per questo tipo di politiche che sta portando avanti il governo italiano, prima i permessi, che poi questa gente qui alla fine non è che è andata tutto in Francia, e poi adesso addirittura il bombardamento della Libia. Insomma, io credo che chi è che interpreta in questo momento del popolo padano? Allora, diciamo comunque che certe cose purtroppo dalle nostre parti sono verità, perché la prostituzione qua, addirittura con un paio di casi anche di malattie serie. In che senso, scusi? Che hanno purtroppo attivato le USL qua in zona proprio. Cioè, lei mi sta dicendo che i clandestini portano malattie serie? No, parlavo delle prostitute. Prostitute sono comunque, anche, non è che siano comunque, per forza. Comunque, ma lei parla della città, scusi Gobbo, lei parla della città che è stata protagonista di un film strepitoso che si chiama Signore e Signori, certo. Dove il corno era l'ordine del giorno. Quindi adesso non è che possiamo dar la colpa alle prostitute che vengono dai paesi dell'est o marocchine, perché c'è. È il paese del corno, Treviso. Cioè, lei ci sta dicendo, scusi, quando lei ha detto le malattie, scusi Gobbo, quando lei ha detto le malattie prima, è perché pensa che i clandestini che arrivano in questo momento possono portare delle malattie? No, è una tesi. No. Allora, cerchiamo di capire, quando si parla di prostitute c'è la preoccupazione, perché è evidente che c'è anche comunque una richiesta, se c'è grande offerta, anche se diciamo comunque che non è poi questa grande richiesta, ma che comunque ci sono organizzazioni che mettono nelle strade anche questo sistema, proprio magari poi per fare altre cose, tipo lo spaccio e tipo tante altre. Vabbè, ma io voglio capire, Gentilini ha ragione oppure no quando tuona in questo modo nei confronti di un atteggiamento troppo morbido nei confronti della Lega, di quelli che governano, che stanno al governo. Non è che Gentilini abbia voluto fare un reprimenda alla Lega, lui come si esprime ovviamente lo sappiamo, e quindi è molto chiaro, per arrivare direttamente, come avete detto voi, al cuore, alla pancia della gente. Ma certamente certe situazioni sono comunque di determinate logiche che tocchiamo con mano. Il problema. Scusi Gobbo, il governo cosa ha fatto? Maroni ha dato un permesso di 6 mesi agli immigrati. Ma di che cosa stiamo parlando? Gentilini si arrabbia per questo, perché esprime, come ha ricordato Cruciani, un malcontento che c'è dentro l'elettorato della Lega. No? Voi credete ancora alle fiabe, no? Perché in che senso? Il permesso di 6 mesi è una cosa che certamente, se fosse rispettato e se fosse fatto, diciamo come deve essere fatto, è una sanatoria, Gobbo. E che quindi se c'è il rientro è una cosa, ma qua abbiamo dei permessi soprattutto dati da tantissime città del sud, e vengono qua e li trovano qua, e qua non è che rispettino certamente. I primi che chiedono invece proprio che ci sia il rispetto delle regole sono quegli immigrati che si sono integrati, e qua ne abbiamo addirittura, siamo al 15%, e sono i primi che chiedono che ci sia serietà e che ci ma sia. Ma secondo lei quelli che vengono sono quelli che vengono con i barconi, eccetera. Qualcuno ha detto hanno le scarpe un po' griffate, in realtà non sono così disperati. In effetti quelli che abbiamo visto tunisini non li abbiamo visto così disperati, e sono tutti giovani, ma io capisco, il profugo è un'altra cosa, cioè il profugo cioè è i tunisini famiglia. Invece che sono il tunisini? Profugo ci sono le donne e i bambini, il profugo ci sono gli anziani, e qua mi sembra invece sia proprio una situazione completamente diversa. Cioè i tunisini che sono un po' più... Ma tanto è vero che loro stessi hanno detto che vengono qua per cercare lavoro, per andare in Francia, per fare questo, per fare quello. Questo è il discorso. Dunque non sono disperati, diciamo, sono anche qualche soldo ce l'hanno questi qua. Ma io credo che se non ce l'hanno, comunque le ripetevo prima, che tanti qua, sia a Padova che a Montebelluna che in altre zone qui della mia territorio, sono stati presi con la droga, e questo credo non sia tanto positivo, non sia un bel biglietto da visita d'ingresso dove sei ospitato. E questo certamente non tutti, ma quando cominciamo a vedere che sono diversi, allora il discorso è un altro. Scusi Gobbo, però qua io... è per fare i soldi in breve termine spacciando droga, e questo non va assolutamente. Dunque lei sta dicendo bene, che molti di questi che arrivano dalla Tunisia vengono in Italia per cercare di spacciare la droga. Così, Cruciani non sia così approssimativo. No, ma ho capito quanti, però se io lei che... le posso fare la lista di tutti questi signori che sono qua, arrivati a marzo, arrivati anche prima, e che oggi sono qua, che vanno su e giù, tanto poi li prendono, poi li mollano, perché non c'è possibilità nemmeno di metterli nelle carceri, perché non ci sono più nemmeno posti nelle parti. Ho capito, galera. Dunque, secondo, però è lei che me lo dice, non lo sto dicendo io. Siccome lei... sì, appunto, io lo dico, non posso dire monate, non posso dire palle, no? No, e quindi se lo dico è purtroppo perché ci vivo con questi problemi, ci viviamo. Cioè lei mi sta dicendo, quelli che vengono qui da noi, almeno la maggior parte di quelli che sono arrivati da marzo, vengono per spacciare, giusto? Ce ne sono, allora, non la maggior parte. Non capisco, guarda. Decidiamoci, la maggior parte, il 10%, il 20%, il 30%. Tutto ciò che volete. No, appunto. Io invece dico le cose, c'è una parte di questi che sono molto organizzati, sono già in mano a delle situazioni delinquenziali. E gli avete dato il permesso di 6 mesi allora. Cioè, allora... E questo purtroppo è un problema. Ma gli avete dato un permesso di 6 mesi per scorazzare sul territorio nazionale tranquillamente e per fare anche quello che lei sostiene che facciano, capisci? I 6 mesi sono dati per il fatto che l'Europa doveva farsi carico di questa situazione. Facendo il discorso dei 6 mesi, tanti sono andati adesso, dopo che c'è stato anche il colloquio fra i ministri degli interni e degli esteri francesi e italiani, c'è stato un primo flusso di questi che sono andati in Francia. Ovviamente sento sono una cosa, Gobbo, volevo chiederle su Berlusconi. La dichiarazione di Berlusconi su bombardamenti è sbagliata, ma lo dica chiaramente. Cioè... Ma certamente io non sono assolutamente di questo avviso, che si possa bombardare, diciamo così, anche con le bombe intelligenti. Si può arrivare a una crisi di governo? Ma questo dobbiamo chiederlo a Bossi, perché credo comunque che su queste cose, io penso che abbiamo già dato le basi, abbiamo già dato già tantissima cosa, dei supporti, li abbiamo in casa anche quelli che scappano, quindi io credo che dalle bombe però parlo, e questo è un discorso diverso, perché questi sono profughi. Cioè la crisi è possibile su questa, su una roba del genere, sulla questione Libia o no? Oppure difficilmente Bossi mollerà Berlusconi per la Libia, o si troverà un accordo? Io credo comunque che sarà un problema di Bossi, per niente il segretario federale del nostro movimento, e quindi che sia un problema di Bossi è sicuro. Lei dice ci pensi lui. Anche i nostri ministri su questo deciderà lui. Ma fosse per lei romperebbe con Berlusconi per questo? Gianpaolo Gobbo, sulla vicenda. Va bene, non è una questione, bisogna vedere anche certe altre situazioni, perché qua le riforme in effetti, come noi avevamo voluto, stanno andando avanti, per cui una cosa del genere l'abbiamo vista. Certo che comunque con le bombe, secondo il mio punto di vista, oggi come oggi non si ottiene niente. Senta, l'ultima cosa, ha sentito la questione dei gay, di quei manifesti dell'IKEA, Giovanardi, eccetera, eccetera. Il suo amico, tra virgolette, Tosi a Verona, per esempio, ha sponsorizzato il Festival del Cinema Gay. Lei lo farebbe a Treviso? Ma allora, sono già venuti qua, hanno fatto loro contro, appunto, sempre contro il vice sindaco Gentilini, hanno fatto una manifestazione. Diciamo che il problema non è fine a se stesso, il problema è quando c'è l'esasperazione, è quando ci si mette nelle varie piazze o nei giardinetti, e a questo non è certo, cioè è un decoro pubblico che non va bene. Cioè nei giardinetti non ci si può baciare, due maschi non si possono baciare nei giardinetti di Treviso. Ma io credo che lei lo multerebbe. Multerebbe due. Sì, sì, ma certamente. Beh, no, come certamente? Cioè lei multerebbe qualcuno che due uomini o due donne che si baciano in un parco di Treviso? Ma non è questione di multare, è questione di avere un decoro, quindi potrebbe essere anche fra maschio e femmina se è avanzata la cosa. Quindi certe cose che si facciano in situazioni, diciamo, di private. Ma parliamo di un bacio Ma non parlo di un petting, diciamo, lei sa, no? Cosa intende per petting? Cioè non parlo, scusi, di una roba spinta. Se lei vedesse due persone che si tengono, due uomini che si tengono per mano in un giardino. Ma per mano non mi dà fastidio. Si danno un bacio. Sì, si baciano due uomini si baciano su una panchina di Treviso. Se si baciano in luogo pubblico, assistiamo appunto al concetto di morale, credo. E come si può intervenire in questi casi? Come si può intervenire? Ma non è che si possa intervenire in questi casi. Sapete, c'è l'orgoglio gay, lo fanno anche per provocazione. Beh, come no, certo, magari perché si vogliono bene, ne hanno voglia, come, semplicemente. Come certe situazioni, e che Dio li benedica se si vogliono bene. Bene, grazie Gobbo, grazie. 20:11, pubblicità. Siamo qui alle 20:13, 800 24 00 24. Ruggero? Mica. Ecco, ha sentito Gobbo? Ho sentito, certo. Contento che dalle sue parti la si pensi così, eh? Ma credo che la si pensi così un po' dappertutto, siete solo voi che non me ne siete accorti, eh. Scusi, Ruggero, se lei è al parco, lei ha figli, Ruggero? No, non ho figli. Non ha figli. Ha mai fatto l'amore lei, Ruggero? Sì, beh, immagino. Non lo so, devo dirglielo a lei o devo dire al confessore, Parenzo? Perché no, di solito i cattolici vanno al confessore, non visto, vanno da. Visto che parla così tanto di sesso, no? Che entra nelle, visto che entra nelle nostre lenzuola quotidie. No, ci dica qual è la sua intensa attività sessuale, no, sacrum imperium. Posso rivolgermi al confessore o mi devo fidare di David Stare Parenzo, qui a sentire la lectio magistralis. La lectio magistralis di Ruggero. Ruggero sul sesso, ma è una roba pazzesca, ma si occupi delle robe sue anziché di occuparsi. Allora, di... Ruggero, però io le voglio chiedere una cosa. Se lei va in un parco e vede due omosessuali che si tengono per mano, sì, oppure si danno un bacio, qual è la sua reazione? Penso che è una schifezza. Scusi, okay, penso, è però, logico. D'accordo, però no, talmente logico, adesso non esageriamo. La logica la lasci per altre cose. Stato per le persone che hanno perso ormai sia il gusto estetico sia quello di ordine morale, come voi. Qualsiasi persona avrebbe un atteggiamento di repulsione istintiva per questo. Il povero Gobbo, povero lo dico nel senso amichevole, il popolo? Della parola, il povero Gobbo, la persona che avete il povero prima, Gobbo, povero, no? Esprimeva quello che è un sentire comune delle persone, ma è logico. Cioè che di fronte a una scena. Scusi un attimo, allora, siccome negli ultimi giorni è successo anche un fatto di cronaca importante e grave, cioè certo, la signora Concia, deputata del Partito Democratico, sì, era mano nella mano con la sua compagna tedesca in una via del centro di Roma, è stata aggredita, sì, al grido di brutta lesbica, battene, sì, nei forni o una cosa di questo tipo da un paio, sì, di signori raccapricciante, una cosa raccapricciante al centro di Roma. Vedere intanto se le cose stanno così, perché a me suscita sempre molta perplessità quando vengono raccontate, però, le cose in questa adesso maniera. Non dobbiamo mettiamo che sia successo così, Ruggero. I idioti esistono, Ruggero. Così, no. No, è altamente probabile che sia successo così, no, perché è fatto altamente probabile. Cioè lei sta dicendo che la signora Concia ci ha raccontato un sacco di stupidaggini. No, ma dico che sicuramente c'è un'enfatizzazione di questi fenomeni. Ma come un'enfatizzazione? Gli idioti esistono e chi sta parlando in questo momento collegato da Verona? Parenzo, provi un attimo a sentire, si sturi le orecchie anziché ciarlare in vano come sta facendo adesso, anziché battere l'aria, ascolti un attimo. Ci sono state centinaia di casi di uccisioni fra omosessuali, cioè fra di loro si ammazzano alla grande. Ma come sta dicendo? Come, che significa? Ma perché me la perdete sempre? Ma come tra di loro si ammazzano alla grande? Che vuol dire, Ruggero? Purtroppo è così, perché essendo un tipo di unioni che non ha nessuna stabilità, ci sono tantissimi delitti fra omosessuali. Voi ve lo ricordate? Ma ci sono delitti fra tutti, non tra omosessuali. Ci sono pieno le cronache di gente, di mariti che ammazzano le mogli. Allora io faccio notare. E coglie? Faccio notare ai radioascoltatori che sono talmente corrivi col politicamente corretto questi due soggetti che non ti fanno neanche parlare. No, ma lei può parlare adesso, non esageriamo. No, saltano come delle palle elastiche nel momento in cui uno gli dice una verità. Ma perché non si possono dire delle bischerate così gratis? Ruggero, non si può dire che i litigi tra gli omosessuali sono maggiori che i litigi tra gli eterosessuali. Abbia pazienza. Allora Cruciani, io capisco che si faccia carriera a pensarla come lei. Io capisco che si percepisca un bello stipendio a pensarla come lei. Ma no, grazie a questo. È la follia. E quindi bisogna battere la gran cassa per il padrone. Però almeno quale padrone, quale gran cassa? Quando chiamate me, lasciatemi dire quello che penso. Poi voi farete le vostre. Vabbè, allora c'è un tasso di litigiosità tra le coppie omosessuali. Mettiamo che questa non si ragionare per assurdo. Ma lei se ne è accorto adesso, Cruciani? Scusi. Ma allora, intanto è un fatto di ordine statistico evidente. Ma poi ripeto, evidente, perché voi non parlate mai dei delitti fra omosessuali? E sempre evocate presunti casi. Ma perché dovremmo parlare di delitti tra omosessuali? Scusi. Ah, perché quelli invece vanno bene. Cioè, ma allora, chi l'ha detto? Vanno c'entra? Male perché sono delitti. Se uno ammazza un omosessuale fra omosessuali va bene, non è un problema. Cioè lei sta dicendo che si uccide di puta per due che da parte eterosessuale un finimondo. No, scusi un attimo, lei sta sostenendo una cosa, che tra gli omosessuali ci si ammazza di più. Certo, ci sono, c'è una statistica. Ma quale statistica? C'è il traffico, Ruggero, c'è il traffico. Ci sono 175 casi di ammazzamenti omosessuali, ci sono 175 casi. Ma in Italia dove? Ma chi le tiene queste statistiche? Allora, io capisco che vi dia fastidio. Capisco che dia fastidio al padrone presso cui scodinzolate tutti i santi giorni. Ma che c'entra il padrone? Dato che è così, esistono delle statistiche che trovano. Ma chi le tiene queste statistiche? La sua associazione? Allora, voi non le tenete di sicuro perché voi dovete proteggere i vostri e quindi è normale che... Ma chi sarebbe adesso, scusi? Perché il Sacrum Imperium ha un ufficio statistiche, scusi, non ho capito. L'associazione Sacrum Imperium ha anche l'ufficio di statistica. No, non c'è. Cioè, c'è un limite alle minchiate, Ruggero, c'è proprio un limite. Se lei anziché portare il cervello alla massa come fa di solito, andate su internet, si documenterebbe facilmente su questo. Vabbè. Allora, le cito solo un caso. Jeffrey Hammer, il mostro di Milwaukee, quello che si mangiava i suoi compagni omosessuali. Ma cosa c'entra? Si teneva il frigorifero persino... Ma ci sono casi di serial killer eterosessuali. Chi ha detto? Non si può parlare. Ma si può parlare, ma non si possono dire follie così pesanti. Un attimo solo, c'è il traffico però. C'è l'ambulanza, mandiamo un'ambulanza che tanto... Va, mentre la città finalmente sa che mostro sei. Tu vietando hai. Siamo qui con la Zanzara 20:20 800 24 00 24. Dario ci chiama da Aosta. Buonasera. Buonasera. Dica. Pronto? Dica, Dario. Buonasera. Senta, io sono un po' basito questa sera perché ho sentito degli interventi abbastanza deliranti. Beh, è la normalità, diciamo, qui alla Zanzara, non è che... È una notizia. Non è una notizia, comunque. Dario, ma cerchi di tirare su allora il livello della trasmissione, intanto io volevo che secondo lei è basso. Telefonavo per ricordare che oggi sono i 25 anni della tragedia di Chernobyl. Sì. E il nostro Presidente del Consiglio ha scelto un'ottima occasione per ribadire la scarsa considerazione che ha per i cittadini italiani. Che servono solo a dargli il potere, perché il popolo è sovrano solo nel momento in cui lo elegge Presidente del Consiglio, ma non lo è più quando deve decidere sul suo futuro attraverso il referendum. Sì, Dario, però devo dire la verità. Secondo me la posizione che ha avuto il governo sulla vicenda del nucleare è stata una vergogna. L'abbiamo detto più volte, marcia indietro, incertezze, dichiarazioni confuse, eccetera, eccetera. Dunque, partiamo da questo. Però bisogna aggiungere un'altra cosa, caro Dario, che non ci dobbiamo nascondere dietro le apparenze. Cioè, la battaglia sui referendum è una battaglia politica che mira da una parte a far cadere il governo e dall'altra naturalmente si vuole restare in piedi. Ora, il governo cassando il nucleare, cioè i nuclearisti dovrebbero essere felici perché il governo avanza una moratoria nucleare o propone una moratoria nucleare. Tanto referendum o meno, uno se vuole al nucleare ci torna, non è che non ci torna, perché i referendum in Italia non contano nulla, cioè questa è la realtà. Ecco, questo è il dramma. Quindi che la volontà popolare... Io devo dire la verità, mi esprimo qui e mi sottoporrò a critiche infinite, sono contro il referendum sul nucleare. Cioè, secondo me, non può decidere la gente sul nucleare. Non può decidere la gente sul nucleare. Io la penso così. Sull'acqua. Infatti, anche sulla questione dell'acqua. Ma è una questione dell'acqua, una questione complicata, la gestione dell'acqua, la privatizzazione. Comunque, se mi inviti su questo, ti dico no, nemmeno sull'acqua. E su cosa deve decidere la gente? Ma, cioè, non lo so. Perché si pensa che la gente non sia adeguatamente informata? No, invece... ma può decidere anche sull'acqua. Dopodiché abbiamo visto concretamente che, volendo, poi un altro esecutivo, un Parlamento, ritorna... Insomma, avevano abolito il Ministero dell'Agricoltura. Ci siamo scannati per 3 mesi per colpa capire... della politica, poi. E questo ho capito. Cioè, sono stati i politici e le maggioranze che hanno svilito lo strumento referendario. Sì, se vogliamo c'è anche questo. Però sul nucleare io sono convinto che non ci si possa esprimere. Cioè, nel senso, un governo serio dovrebbe prendere una decisione, punto. Non è una cosa su cui... Poi, quel governo, quando lo propone, verrà giudicato dagli elettori in sede elettorale. Dario, lei non è d'accordo su questo? No, perché mi sembra che Io credo molto nel discorso della democrazia partecipata, in cui sono i cittadini che partecipano direttamente alle scelte di politica generale. Una scelta sul campo dell'energia mi sembra una scelta decisamente coinvolgente l'universo. Questo può darsi, però non è l'argomento per cui... È un argomento così tecnico in realtà, sì. È un argomento di scelta di un tipo di società che si vuole costruire. Beh, insomma, adesso non esageriamo, ci sono paesi che hanno delle inseriti nel mondo occidentale, che fanno anche politiche molto ambientaliste, eccetera, che hanno sono piene di centrali nucleari. Dario, ripeto, l'altra domanda è questa: è legittimo o no da parte di un governo cercare di evitare che i referendum vengano strumentalizzati e che si voglia a tutti i costi arrivare al quorum per la questione del legittimo impedimento, perché anche di questo si tratta, oppure è solamente cinismo? Non ho capito, mi scusi. È solamente cinismo quello del governo, oppure è una legittima posizione politica, perché poi c'è la questione del legittimo impedimento? Allora, c'è quella questione del legittimo impedimento, ma è soprattutto una questione di modalità di governare seguendo i sondaggi, senza avere il coraggio di tenere un proprio programma. Sì, ma su questo non c'è dubbio. A questo punto sarebbe dovuto affrontare una campagna referendaria sostenendo il no, non l'astensione, sostenendo il no. Oppure sostenendo il non voto. Effettivamente maggioranza nel paese, come vanno sbandierando in tutti i talk show. Sì, Dario, è evidente che su questo non sono maggioranza. Sono dei pavidi, nel senso... dai, Cruciani, diciamolo chiaramente. È no, una maggioranza fatta di pavidi, hanno paura di sostenere le loro idee, perché hanno paura di perderle, questo è il punto. Non sono così forti le loro idee, il governo è in crisi, la maggioranza comunque è in crisi, e avevano paura di un ostacolo in più. E il referendum per loro sarebbe stato un ostacolo in più. Sono pavidi, pavidi. Lorenzo da Catania, buonasera, grazie Dario. Lorenzo? Sì, eccomi un attimo. Che sta facendo? Sta mangiando? Pronto? Sì, dica. Pronto? La sento, io dica. Io l'ho chiamata, sì, se possibile volevo fare una piccola parentesi sull'intervento di Parenzo l'altra sera ad Exit. Vi ascoltavo, me l'avete anticipato. È della settimana scorsa. Non allora, sa nessuno. Eh sì, sono tornato a casa contento che avevamo il nostro cavallo di razza in televisione a dargli un po' di filo da torcere con i giornalisti da video. Io devo dire che un po' mi ha deluso. In che senso? Prendere all'ansia di prestazione. Ansia di prestazione. Sì. Vabbè. Cioè, quando si è messo sopra il predellino, cosa ha fatto? Sì, insomma, di tutte le stesse cose, insomma. Sì. Vabbè, non le è piaciuto, succede nella vita. Capita, non le è piaciuto, Parenzo a Exit. Alle volte la pizza non viene cotta giusta. Lorenzo, ci voleva dire questo? Vabbè. No, poi volevo parlare sulla discorso del referendum. Finalmente abbiamo calato la maschera, se ne è parlato, forse è già stato anticipato quello che volevo dire io. Sì. No, insomma, è vergognoso che quella che deve essere una delle poche nostre partecipazioni alle decisioni del nostro futuro, poi, no? Lei dice che noi non dobbiamo decidere, ma siamo noi che paghiamo la bolletta cara o meno quando ci arrivo ogni due mesi a casa, perché non dovremmo essere noi a decidere? E il fatto di cancellare il quesito nucleare dai prossimi referendum, io lo trovo scandaloso, scandaloso. Poi, a parte appunto il fatto, la scusa che è quella che noi non potremmo decidere perché non siamo capaci di distinguere l'emozione dalla razionalità, e questo è tutto da decidere, che siamo meno capaci, ma anche il fatto di dover dire che queste cose invece si nasconde il fatto che non si vuole raggiungere il quorum. Ma sì, ma ripeto, è talmente il problema referendum. Sì, ho capito, però scusi un attimo, è talmente scoperto il gioco che uno poi possiamo criticarlo in mille modi, eccetera, eccetera, ma in questo periodo si ragiona nel breve periodo, cioè sono momenti in cui non si sta ragionando di grandi prospettive, si ragiona nel breve periodo. Nel breve periodo il governo vede un ostacolo alla sua sopravvivenza nel referendum e fa tutto per evitare che si tenga il referendum, anche venendo incontro, se vogliamo, alle esigenze dei referendari. Perché il cinismo della politica, certo, i referendari propongono l'abolizione del nucleare, e infatti il governo con i suoi provvedimenti vuole per il momento fermare il nucleare. E così sull'acqua la stessa cosa, poi sarà la Cassazione. Ma è drammatico che si ragioni così, ed è ancora più drammatico che si sia sono questi tempi, i tempi sono questi, che non ce ne frega niente, che noi lavoriamo solo per il per la nostra sopravvivenza, cioè non c'è nemmeno più la vergogna di ammetterlo. Ma perché, scusi, ma non ho capito, lei di fronte al cinismo della politica dovrebbe come dire, no, fare allora il cinismo della politica va bene quando c'è un progetto politico. Allora io ho un progetto che inizia con A, si passa B, C, D, vari stadi per arrivare a un fine. Allora mi sta bene, il fine giustifica i mezzi, allora questo ne possiamo parlare a lungo, e mi sta bene anche forse il problema democrazia, il sistema, però qui non si capisce il fine, quant'altro. È vero. Ma oggi c'è un fine, c'è un cinismo della politica che possiamo giustificare, ma c'è un fine politico o un fine personale? Beh, questo... Allora, questo è, se c'è un fine politico, se c'è un progetto, allora niente, ci abbassiamo a queste grandi menti illuminate che decideranno. Ma il progetto, per noi. Diciamo, per il allora, sì. Al momento il progetto mi sembra un po'. Mi sembra solamente quello della sopravvivenza. Grazie, 20:29, Borzi. Siamo qui alle 20:32, 800 24 00 24. Questa è la Zanzara. Vogliamo mandare i titoli della 7 che ci siamo dimenticato dimenticati totalmente stasera. La 7, titoli. Napolitano dà l'appoggio ai bombardamenti in Libia, ma nella maggioranza deflagra lo scontro. Berlusconi minimizza, dall'Italia solo razzi su obiettivi mirati, ma la Lega dice no, non siamo d'accordo, le guerre non si fanno, afferma Bossi. E il PD ora chiede in Parlamento si esprima con un voto. E sullo stop al referendum nucleare il Premier ammette, dopo Fukushima la gente ha paura, votare ora avrebbe fermato i nostri programmi, che riprenderemo presto. Quella è l'energia del futuro, i referendari insorgono, ammette una truffa e un inganno, si voti. E sui migranti, intesa tra Italia e Francia, vertice di Roma per una revisione della libera circolazione nell'area Schengen. Tra i due paesi esplode la distensione su tutto, Berlusconi non si oppone all'OPA di Lactalis su Parmalat e Sarkozy promette pieno appoggio a Draghi per la presidenza della Banca Centrale Europea. Annunciato da mesi, Berlusconi conferma che il rimpasto di governo avverrà tra due giorni. Pionati sarà vice ministro, avrà la delega alla televisione, saranno una decina i nuovi sottosegretari, primi della fila i responsabili, poi ex Finiani e transughi del centro-sinistra. Salta la testimonianza di Massimo Ciancimino al processo contro il generale Mori, il figlio di Don Vito è ora sotto protezione speciale per timore di ritorsione in carcere. Sulla sua controversa testimonianza, contrasti duri tra PM di Palermo e Caltanissetta. Giovedì un vertice che dovrebbe sancire una tregua a Roma. Ieri 25 aprile aveva issato in una strada di Roma una scritta simile a quella usata dai nazisti all'ingresso di Auschwitz. Oggi nell'autodenunciarsi spiega: sono un artista, non un antisemita, era una provocazione, un monito perché quell'orrore non si ripeta. Bene, siamo qui alle 20:33, 800 24 00 24, erano i titoli della 7 di Mentana. E andiamo a sentire Luca da Treviso. Buonasera. Buonasera. Dica. Riguardo, volevo intervenire riguardo la pubblicità, ho sentito prima sull'IKEA, no? Sì. Se non sbaglio. Niente, semplicemente per dire che sia una malattia. Non ho capito, scusi, non ho capito bene. Trovo che l'omosessualità sia una malattia. Sì. Questo. E anche una perversione, ovviamente. Una perversione e una malattia. Una deviazione, sì. Da una curare, degenerazione da curare. È possibile da curare, quindi sono totalmente d'accordo con il signor Ruggero, se non sbaglio. Bene. Sì. Dove si trova, Luca? Dov'è lei? Treviso, no? Sì, sì, sì. Bene, bene. Stia sereno. Lei non pensa che sia così? No. Malattia da curare? Francamente no. Guardi, da curare c'è una persona che sta chiamando da Treviso in questo momento. Questa è una persona da curare, diciamo. Ma io sono anche contrario un po' alla pubblicizzazione, nel senso che trovo ci sia il pericolo. Ma lei da dove ci sta chiamando? Sento un rumore stranissimo. Lei teme l'emulazione. Teme l'emulazione dei giovani, cioè nel senso... Secondo me sì, però vi consiglio di interpellare anche... Sì. Non so, so chi se ne intende più di me, ovviamente, anche più di voi, tipo qualche psicopedagogista, psicologo, no? Sì, come l'evoluzione della persona dall'età infantile. Siamo già in zona, eh? Siamo già in zona, stia sereno, siamo già vicini. Va bene. Treviso è piccola, per cui la troveranno, questi signori. No, ho conosciuto Ruggero grazie a voi e devo dire che apprezzo. Apprezza Ruggero. Si iscrive all'associazione Sacrum Imperium di Ruggero. Ha fatto un danno in più oggi. Abbiamo fatto un danno. Abbiamo fatto un danno, va bene. Comunque, Ruggero, ha sentito? Trova proseliti. No, ho sentito, però diciamo, in realtà c'è una diversità, se posso dirlo. Nel senso che io non ho mai detto e non penso che l'omosessualità sia una malattia. Io penso che sia un vizio, una cosa diversa, una malattia dell'anima, ma non evidentemente del corpo. Beh, diciamo, le posizioni non sono così divergenti. È una sfumatura proprio leggera. Ma solo Parenzo può dire sfumatura una cosa così enorme com'è la differenza tra una malattia fisica e un vizio morale. Cioè, solo Parenzo, evidentemente, per cui, che ne so, i dromedari e gli elefanti sono uguali, evidentemente, per lui. No, certo. Come si fa a dire? Ma no, come si fa a dire una cosa del genere? Cioè, il vizio, proprio di ordine morale, per sua natura, è sempre emendabile, perché la persona si può sempre emendare da un vizio. Da una malattia, delle volte, non si può guarire. Ma questo non è un caso di malattia, è un caso di vizio. Dunque, secondo lei, si può guarire dall'omosessualità? Si deve guarire, certo, anzi. Attraverso la preghiera non c'è nessun problema. Non c'è dubbio. La preghiera, certo. Abbiamo sempre detto, abbiamo consigliato anche la Concia in una trasmissione precedente, se si ricorda, ma credo che non abbia messo in pratica consiglio. Ah beh, certo, non ha messo in pratica il consiglio, credo di no, anche perché si vuole sposare, intende sposarsi, credo, in Germania. Sì, non so per quel matrimonio, lei sa vero che il matrimonio cioè dal punto di vista canonico suppone anche l'eterosessualità, vero? Dal punto di vista canonico, appunto. Certo. No, e anche dal punto di vista civile, oggi come oggi, dai, anche dal punto di vista Italia, da noi, certo, qui da noi, nello stato talebano nel quale viviamo. Io certo. Non ho capito bene che se quei signori che hanno insultato la signora Concia, lei le fanno schifo oppure sono persone che hanno espresso la loro idea, punto e basta. Quei signori che hanno insultato la Concia... Ma io voglio vedere anzitutto il caso com'è. Perché non ho capito, però stiamo dicendo noi com'è il caso. Il caso è questo qua. Voglio vedere anzitutto il caso com'è, perché tante volte esiste una propaganda su cose di questo genere e dico invece che non vorrei andare verso un orizzonte tipo parenziano dove un domani non si possa sposare anche con un cane, perché se si ammette l'omosessualismo, perché non ammette domani la bestialità, il cannibalismo omosessuale, perché non ammette qualunque altro? Ma come cannibalismo? Che c'entra il cannibalismo? Ma perché no? Scusi, non sa che esiste il cannibalismo omosessuale anche? Non ha presente di come il cannibalismo omosessuale? Si mangiano fra di loro, non si ricorda il cioè non solo si uccidono ma si mangiano. Ma che mondo vive lei? Questo mi ricorda un vecchio film che si chiama Mondo Cane. Siete voi che, film ha visto da bambino? Allora, spieghiamo agli ascoltatori come funziona. Quando Parenzo, ma spieghiamo che infanzia ha avuto lei. Quando Parenzo e vedono una notizia che non è bene dare, non la vedono, no? Quando invece vedono qualcosa che magari pure non c'è, la strombata nei quattro venti. Funziona così, è essere giornalisti questo, no? Perfetto, complimenti. Cioè, non leggete neanche le notizie che i vostri colleghi diramano da anni su casi di questo genere, un caso famoso sempre in Germania. Ho capito, ma non è che l'omosessualità in questo caso sia una causa scatenante del cannibalismo, abbia pazienza. No, ma io ho detto, Cruciani, se lei mi ha ascoltato e si è capito, ne dubito, ma comunque lo dico, no? Ne dubito, se lei certo. Appunto, mi ha ascoltato e ha capito, ripeto, ne dubito, però... E io volevo dire questo, cioè volevo dire semplicemente che se entriamo in un ordine di legittimazione in generale, perché non legittimare domani anche il matrimonio nell'ambito della bestialità, cioè l'uomo e la bestia, oppure perché non legittimare... Ma non è la stessa cosa, ma non è la stessa cosa il matrimonio tra due omosessuali, tra un uomo e una bestia, mi scusi. Allora le dico una cosa. Ruggero, lei mi sta sostenendo una tesi assurda, cioè che il matrimonio tra due omosessuali è uguale a quello tra un uomo e una bestia. Io non ho detto questo, ho detto... Come no? Ho detto sul piano delle perversioni, se si cominciano si finisce. Ma sulle sue perversioni, cioè, ma chi è che vuole sposare un cane? Ma di che dice? Allora, visto che voi conoscete la storia molto bene, prima vi siete fatti correggere da Gobbo, voglio dire complimenti, cioè avete fatto un errore, abbiamo pensato. Vabbè, adesso Ruggero non ci venga a fare la lezione. Non ci venga a spiegarci a noi. Ma perché si agita, Cruciani? Tutti hanno ascoltato qual è il vostro livello culturale. Adesso vediamo un'altra. No, scusi, Ruggero. Adesso, Ruggero. Noi abbiamo avuto un momento in cui pensavamo che il Gobbo facesse riferimento al fascismo. Abbia pazienza. Avete avuto una lieve defiance di 20 anni tra Giolitti e Mussolini. Ma non ha importanza. Giolitti con Gentile, ho confuso. Ma no, cosa c'entra? Adesso non è che il Sacro Imperium ci spiega com'è la storia del mondo, Cioè. Su un piano storico. Se vi ricordate, quando fu introdotto, o stava per essere introdotto il divorzio in Italia, eravamo tutti piccoli, però voglio dire, bastava leggere, non si documentava, si diceva a quel tempo, sì, il divorzio, sì, ma l'aborto, mai! No. Vabbè, allora lei dice, si può passare tranquillamente, lei dice, si potrebbe passare dal matrimonio tra omosessuali a... vuol dire che di scalino in scalino, quando si prende questa via, no, che si arriva al matrimonio tra un uomo e un cane? Beh, Ruggero, mi vuole sostenere questo? Certo, e domani, chissà altro ancora, perché voi, evidentemente, facendo torto alla morale naturale e applaudendo a quelli che sono appunto coloro a cui dovete scodinzolare, evidentemente. Ma quali sarebbero quelli che dobbiamo scodinzolare? Non c'è nessuno. Non c'è nessuno di fronte a quale dobbiamo scodinzolare. Avete un riflesso da cane di Pavlov, per cui tutte le volte che si tocca qualche cosa, subito, immediatamente cominciate ad abbaiare come fa il padrone. No, ma perché dice delle bestialità. Ah, è solo per quello, no. Ma sai che a me per strada mi dicono, no, ma sto Ruggero esiste davvero? Pensano che sia uno scherzo. Io devo dire, no, guardi, confermo, anche chiamate Cruciani, esiste Ruggero. Devo dire la verità, anche io pensavo fosse un'entità ectoplasmatica, invece esiste anche Parenzo, effettivamente. Corrado da Brescia, Ruggero, si taccia un attimo, Corrado da Brescia, dica. Buonasera. Complimenti per stasera, perché francamente avete raggiunto dei livelli fantastici. Perché nemmeno il miglior Amici Miei avrebbe portato così tanta letizia questa sera. Non ci faccia troppi complimenti. Siete veramente meravigliosi. Io sul tema dell'omosessualità voglio soltanto dire che l'uomo non è un animale naturale, ma un animale culturale, ma capisco che qualcuno poi gli va in cortocircuito il cervello, quindi cambio argomento. Sul tema invece dei referendum mi interessava il vostro parere su una certa questione. Continuiamo tutti a dire ipocritamente che il messaggio dei cittadini viene poi stravolto dal Parlamento, ed è assolutamente vero. Come la mettiamo, per esempio, lo dico agli antinuclearisti, allo straordinario referendum che si vinse sulla responsabilità civile dei magistrati e o allo straordinario referendum che si vinse per ben due volte o quasi sul finanziamento pubblico dei partiti, e i partiti e i parlamenti se ne fotterono bellamente, però di questo nessuno parla. No, nessuno parla. Ogni tanto, non è che quotidianamente si può parlare di referendum che sono passati e poi sono stati traditi dai parlamenti successivi, o addirittura dallo stesso Parlamento durante il quale sono stati votati. Corrado, se ne parla. I radicali sono 20 anni che dicono che i referendum vengono traditi, cioè ogni volta lo dicono. Per cui se ne parla, Corrado. Che è smentito da un altro referendum, altrimenti andremo continuamente avanti in questo cortocircuito logico. Per cui il Parlamento è chiaro che poi può cambiare idea, perché cambia idea anche l'opinione pubblica, perché l'opinione pubblica passa dalle monetine alla responsabilità civile dei magistrati. Non siete d'accordo? Sì, Corrado, perché io sono d'accordissimo con la responsabilità civile dei magistrati, anche se poi bisogna naturalmente gestirla. Certo. Non è semplice, non è come per i medici, tra l'altro anche tra i medici ci sono un sacco di critiche, di idee diverse sulla questione della responsabilità. Corrado, grazie. Fabrizio da Reggio Calabria. Buonasera. Buonasera. Dottor Cruciani, dottor Parenzon, è un piacere parlare con voi. Dica. Io volevo, se me lo consentite, intervenire a proposito di quello che è stato detto dei giudici BR e via dicendo. Sì. Ovviamente io non commento questa follia, l'ennesima partorita dall'intelligenza berlusconiana ai danni di tutto, io penso, l'Italia, la Costituzione, gli italiani e ovviamente anche i giudici che magari sbagliano come anche altre autorità, come anche altre professionisti, diciamo, ma di certo non possono essere considerate la stregua di quei brutali e folli omicidi per ovvie ragioni. Io credo che questa sia l'ennesima dimostrazione di quello che è il potere di quest'uomo, dei suoi falchi, delle sue colombe. No? Non so se lei... Falchi o colombe, scusi? Falchi, sicuramente. Falchi, no, in questo caso falchi. Falchi. Lei dice Berlusconi ha sbagliato a usare quelle frasi nei confronti dei giudici, no, brigatismo, giudiziario, eccetera, eccetera. Però andiamo al succo, perché questa roba vecchia. Chiederle, lei sicuramente avrà letto 1984 di George Orwell. Sì. Io credo che chi ha letto questo libro ha la possibilità di discernere cosa sta accadendo oggi in Italia. La schiavitù a cui si riferiva Orwell non è solo catene e botte, come ha insegnato, radici e via dicendo, ma è qualcosa di più grave che viene installato nella psiche attraverso un condizionamento condizionamento intellettuale, culturale. Ma questa è una vecchia tesi, caro Fabrizio, cioè Berlusconi come una sorta di, lo dica lei, una sorta di, non lo so, grande fratello, una sorta di, no, di plagiatore, di coscienze, plagiatore di coscienze. Ma vede, la questione è c'è chi grave. Crede ancora a queste stupidaggini colossali, però va benissimo. Sono stupidaggini colossali, sono baggianate e inaudite, però va bene lo stesso. Ancora, sono anni che filosofi, intellettuali, sì, politici e giornalisti sostengono che Berlusconi plagi le coscienze degli italiani. Ma va bene, insomma, non, è, sì, non le plagio soltanto. No, lui fa, ha, di, là, fa vede, di più. Lui ha due possibilità per, sì, aggredire, diciamo, la psiche, il suo nemico, perché il suo nemico io credo che siamo noi tutti. Noi tutti, certo. Noi tutti. Io penso di sì. Lei è lucido, sì. Io penso di sì, perché lei è lucido, a, sì, a suo uso e consumo, legge e decreti che lo salvano tutto, di volta decreti, in volta legge, da quello che dovrebbe essere il proseguo della legge. Cioè la galera, insomma, no? La galera probabilmente. Io credo, per quello che ha compiuto, sì, potrebbe anche starci. Si potrebbe stare, per carità. Senza processo anche, no? Se cadono in prescrizione non significa, sì, che l'imputato sia innocente. No, io penso che... anzi no, la prescrizione è, molto probabilmente potremmo sostenere, l'anticamera della condanna, o sbaglio? Ma io credo che comunque sia, se la legge avesse seguito il suo corso, sì, lui non sarebbe stato lì dov'è. No, per carità, no, sicuramente in galera, no? Ma se non in galera, penso in un posto più consono alle sue abitudini, al suo modo di vivere, intraprendere le... E quale sarebbe il posto più consono? Ma sicuramente lontano dalla sua posizione di premier, sì, del primo, non so, ministro, in esilio, a casa sua, no, nei Caraibi, non voglio essere così drammatico, ma sicuramente come non Craxi, non lo so, ma sicuramente non dov'è, non dire. Dov'è, va bene Fabrizio, non sta a me decidere dove, no, dov'è, perché ci mancherebbe altro, abbiamo il traffico, torniamo subito. Siamo qui nella parte finale della Zanzara, sempre a raccogliere le vostre telefonate, ancora con Maurizio Ruggero in collegamento, protagonista di questa puntata della Zanzara, in diretta da Verona, presidente dell'associazione Sacrum. Ho accolto la battuta dell'ascoltatore di Brescia quando ho detto che voi siete animali culturali. Interessante questa cosa. Cioè, io sono un essere umano, cioè una persona con la razionalità. Evidentemente voi siete considerati animali culturali. Interessante questa cosa. Ma adesso, animali culturali, adesso non mi ricordo nemmeno questa definizione. Vabbè, andiamo a Marco, provincia di Pesaro. Caro Marco, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera Parento. Signore mio, cosa sto ascoltando da Roberto Ruggero? No, Maurizio Ruggero. No, Maurizio. Non si... Guardi, già parte male così, No, veramente, non è, sì, cattolicesimo questo. Vuole un valium, allora, vuole una cosa. No, parla lui e parlo io. Ok, parlo io. Sì. Io sono un cattolico, spendo la mia vita con i ragazzi a catechismo e tutto, però quello che sta dicendo Ruggero non può essere definito cattolicesimo, dai. È una chiusura troppo grande. Dunque... voglio dire, io sinceramente sono, non sono contro alla pubblicità di IKEA. Ne hanno fatte tante peggio. Sinceramente, adesso non so se possono fare nomi, ma Nutella, che fa credere che la famiglia ideale è grazie alla Nutella. Cioè, per me sono a quel livello. Dov'è il problema? È una marca che fa una pubblicità. Non si possono appellare come ha fatto con... alla Costituzione per queste cose, cioè arriveremo a un livello veramente troppo basso. Sì, quello è Giovanardi nella sua intervista, esatto, a Klaus Davi. No, ma gli fate una domanda, Cruciani, gli chiede a quali sono i quattro peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio. Vediamo se il catechista lo sa. Ma cos'è? È mica un esame di catechesi. Ma signore mio, ma Gesù Cristo ci insegna ad amare, non ci insegna tante altre cose create dopo da tutti. Amare, basta. Adesso lei non mi metta alla prova con questo. Ruggero, non metta alla prova l'ascoltatore. Amare. Ho 25 anni. Spendo la mia vita per sti ragazzi, lei faccia uguale. Non si interessi della pubblicità. E non faccia credere alla gente che noi cattolici siamo così chiusi. Ruggero, non è vero. Guardi, dei cosiddetti cattolici aperti come lei, che hanno fatto franare Santa Madre Chiesa, non ne possiamo più. Vabbè, dei cattocomunisti come lei. Ma che ne sa lei, cattocomunisti? Come lei, non ne possiamo più, va bene? Ecco. Ma perché? E si vada a imparare i quattro peccati che Dio vendetta al cospetto di Dio, fra cui c'è la sodomia. Ancora. Io non insegno i peccati, io non insegno i peccati, ragazzi, insegno le beatitudini, insegno come vivere al mondo. Non insegna niente lei, non insegna che altro che una caricatura di cattolicesimo che va benissimo a fare. Ma sa lei? Quindi figuriamoci. Ecco. Scusi, e infatti era in prima fila da Ratzinger quando Ratzinger compiù quell'atto incredibilmente apostatico di andare in sinagoga. Complimenti, en passant. Ma questo adesso non ha criticato anche Ratzinger. Ratzinger non mette mai in sinagoga. Cose, Parenzo. Perché ha paura che si No, ma non c'è nessuna paura. Lei è tecnicamente pazzo. Basta, è finita. No, cioè, io sono tecnicamente un è che io so che la conosco. È che c'è il dramma, è che c'è gente che può pensare che lei non è vero, è un attore. No, il dramma, come il dramma, è un grande attore della Zanzara. Invece no. Lei è drammaticamente vero, troppo vero, pericolosamente vero. Vergogna, Ruggero, vergognati. No, lei ha ragione. Vergognati. Vero, viva l'amore, vero, viva no, l'amore, è vero, è omo, vero che è etero, plurisessuale. È vero che è pericoloso, è vero che per persone come lei è pericoloso, è vero, perché mentre tanta gente è reazionaria implicitamente, io sono esplicitamente, e quindi questo rende molto più pericoloso, come dire, per persone come lei questo tipo di idee. Pasqua veronese, quello che si presenta, che fa ancora le Pasqua veronesi in costume lì, con i cannoni. Noi vogliamo il ritorno della città tradizionale, noi non andiamo mica il 25 aprile insieme ai quei partigiani resistenti, siamo col patrono San Marco, il grande patrono della Serenissima Repubblica di Venezia. Benissimo. Marco, allora come vuole concludere? Faccia concludere Marco, che è un giovane cattolico il quale inorridisce per le sue parole, caro Ruggero. Marco, concluda. Posso solo dire che dobbiamo spendere la vita ad essere realistici, non attaccarsi a tante cose che imprimono il cattolicesimo di... Cioè lei di fronte a quel manifesto dell'IKEA con due uomini che si tengono per mano, come reagisce? Inorridisce? E le fa schifo? Se ho un ragazzo, come gli dico, secondo me la famiglia mia ideale è un uomo e una donna. Loro hanno scelto di mettere la loro famiglia come due uomini, non condivido la loro idea, finisce lì. Non dico che il cattolicesimo, due punti, le famiglie tutte per forza donna e uomo. No, ognuno ha la sua idea. Vabbè, questo che ognuno abbia la propria idea mi sembra scontato. Grazie Marco, andiamo a Roma. Michele, velocemente. Sì, pronto. Sì, abbassi la radio, Michele. Abbasso la radio. Oh, comunque va bene, cioè Ruggero è fenomenale, quello le manda tutte le sere. È collegato ancora con noi. Sta qui. Ah, è collegato. No, io volevo soltanto dire una cosa al sindaco di Chiera di Treviso. Sì, Gobbo. Che è Gobbo, che si lamentava degli immigrati che spacciano la droga, sì, e che ci sono le prostitute. Però volevo far soltanto presente al sindaco che se ci sono i spacciatori e le prostitute, i suoi concittadini ne fanno buon uso, Cioè, lei dice dove c'è uno spacciatore c'è anche un consumatore, o comunque gli spacciatori certamente non sono solamente extracomunitari. Sì, a parte che non sono soltanto stranieri, perché ce ne sono anche tanti italiani. Però insomma, allora, cioè, se non la portano loro la droga, la porta qualcun altro. Vabbè, ma insomma, questo mi pare talmente ovvio che appunto, ma no, lei fa però bene ricordarlo. Perché si mettono a parlare, no, perché sono sindaci alla radio e di ste cose così, cioè proprio banali, perché appunto poi la risposta uno la dà da soli. Ha detto anche Gobbo che fosse per lui multerebbe pure gli omosessuali che si baciano per esempio in un parco pubblico. Volevo sapere dal signor Ruggero se era d'accordo con questa cosa. Per multarli, dice lei? Multarli, sì, o qualche altro provvedimento? Cosa vuol fare? Ma secondo me la sodomia merita sanzioni, come è sempre stato nella sua tradizionale. Questa è una sua tesi. La sodomia conclamata. Qual era la punizione nella società tradizionale per i cosiddetti, quelli che lei chiama sodomia? C'era anche il rogo, la Serenissima, c'era il rogo. Sì, stato liberale, siccome siamo passati. La società si è un po' evoluta, no? Ecco, questo fa vedere quanto siamo decaduti, lei vuol dire. Lei dice che passando dal rogo al carcere, o comunque non per i sodomiti, insomma, passando dal rogo alla normalità. Sarebbe l'immoralità, secondo me. No, la normalità, passando dal rogo al fatto che queste cose non esistono più, lei dice che è una società che è decaduta, giusto? No, io dico che una società tradizionale punisce la sodomia. Secondo lei la sodomia conclamata, cos'è la sodomia conclamata? Allora, stavo dicendo appunto quella chiaramente che ha un carattere pubblico, perché cioè per esempio non lo so, mi dica, cioè lei per esempio la signora Concia e la sua compagna che sono conclamati, cosa farebbe? Beh, in una società tradizionale sarebbero puniti, questo è evidente. Con che cosa? Come? Invece puniti come, Ruggero? Beh, ma questo poi lasciamo al legislatore. Ma quale legislatore? Non ho problemi. Con Rogo? Può scegliere. Con la garrotta? Che cosa vuole fare? Garrottare? Ai forni, come ha detto quel signore che l'ha insultata? Ma no, ma voglio dire, è semplicissimo. Abbia il coraggio di dirlo. Ma se lei vuole, ma io ho sempre il coraggio di dirlo. Guardi, non sono un lacchetto. Ho capito, la signora Concia e la sua compagna tedesca che passeggiavano al centro di Roma. Dunque, secondo lei è sodomia o non so che... No, sodomia no, in questo caso. Ma insomma, omosessualità conclamata. Come dovrebbero essere punite nella sua società tradizionale ideale? Allora, se la Serenissima fosse al tempo della Serenissima, sarebbero destinate al rogo. Ecco, e come dire, questo... Ho capito, ma bisogna tendere verso quella società o no? Ma per personalmente, se si restaurasse, non sono mica contrario. E dunque, ci vorrebbe il rogo per onorevole Concia. Benissimo, abbiamo capito. Non è necessario, ma è possibile. È possibile. La follia, la follia. Non è necessario, ma è possibile. Federico da Rimini, buonasera. Buonasera, parente. Niente, io volevo soltanto manifestare la grande pietà che provo per Zero, perché mi sta facendo una pena. Penso che in Italia siano problemi più grandi. In più, non vedo che male lui veda nell'omosessualità. Io sono omosessuale dichiarato, sono stato segretario di un circolo gay qui nella provincia di Forlì-Cesena. Sì. E quello che penso io è che fondamentalmente questa persona sarà disturbata, avrà dei problemi. Comunque, che si vada a leggere la sentenza dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dice chiaramente che l'omosessualità da più di 20 anni non è più dichiarata come malattia mentale. Inizieremo una discussione infinita, Federico, però la richiamo domani, perché come sente dalla musica, bravo. Il tempo a nostra disposizione è finito. Grazie Ruggero, grazie a tutti. Noi ci vediamo domani 18:30. Ciao. Ciao. Ricordati che devi morire. Com'è? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupare. Radio 24. La passione si sente.